giocattolo, ma tu finché ti andrà bene. Venga bene, la pompa. Non ti male, la pompa, avanti in vista. Hai sette di due uguali. Riprendi di volte che gli va più lontano. Ma è buon casino. E come ti chiudi? Partende, ragazzi, un casino. Luca è spaventato, ragazzi. Luca è spaventato, ragazzi. No, io stavo provando in banda lui. Hanno provato. Sono arrivato 9.30 a Budiglio, a Ipè, a Brini. Uno che tu di tutti, come ce l'hai a Fini. A Ipè, tanto giorno, la piccola una cosa vecchia, ma... Tutto comprende come, perché te lo dico appena. A me sei un mese? Lo so. Lo sta appena. Sei uomo. Dai, non parliamo già. Ti metto un po' più, sai te. Ora, ti vedo una madre corrente. Avanti. E allora, signore, insomma, sto mandando un messaggio, gioco. E che fai? Giusto. Ora, quanti minuti stiamo qui a reggere? Sì, quello che andrei a coppia due, ieri. Sì, non bene alla coppia. Per un pezzo di dall'intesa, per la partita dall'intesa ci vuole tanto una cosa male. E fa l'intesa tutto, non si. E in due, tanti giugni, su vento, si anda bene, non si. Di là da, se ti manca le difese, ti manca pulito, forse. A dagli due, no, è tutto qua, si mette le misure, uno chilo e mezzo di misura. Molti misure, armonica, fisarmonica, ferro tagato indietro. Sono le grosse e lo dico di ma fa tutto se ti rendi conto qua ma lo deve là e manco pulita pulito non la manetta in qualche giorno e invece mi sembra di vedere tutto qua si mette compreso invece noi che ho fatto tutto questo tutto qua si mette no ce l'ho compreso basta ma non preso infatti io hai visto tutto qua si muore si può solo che sono tutti. Ma mi senti già? E adesso mi sono ignare da tranquillo. Già, non mi senti? Sì, avanti. E la farina sono, adesso no, che si è messo quell'altro apparecchietto qua, in camera da lei. Un attimo il telefono. Ma mi senti il 100%, non c'è problema, è tranquillo. Dai, pure, non c'è problema. E allora, questa specializzata sono un casino, sono semplicissimi di tutto, naturalmente un vatmetro prende insomma tutto, rosse, armonici, furie, tutto, insomma lui punta di addirittura, ci sono vatmetri che prendono quello che gli conviene, magari non sta toccando manco la fondamentale, capisce, bisogna vedere che vatmetro è. Prendi il transessuale. Ma sul vatmetro e ha comunque risultato su un gioco eccetera per niente ma comunque io intendo là il suo 48 andrà bene non fa problema il suo 48 non fa da problema già cioè. E tanta mutuali. Tutto bene per la tuffa. Hai pensato chimicamente, riprendi. Beh, vale, c'ha o della Brimi mille. Che cosa? Guarda, so che c'era la Brimi. Primo certo. Come ricordo se ora chi sei quello della Brimi? Il Rosma trovato nostro contattore e commutatore. Allora successo. seguiti. Ma un giorno, per sovrare, mi pareva più platinato. E poi ci faccio vedere uno strumento che regge solo e esclusivamente la fondamentale, e non per questi pezzi lì. No, vanno bene per giocare, così, al CD, per giocare al CD vanno bene. Magari L. Chi ti sta chiamando? Non intendo, non c'era, mi ascolti, cappa. Non ti dà da problema per attuare, quindi. aprile il capo di un mito, il 48, dove aprile, il 19, il 48, avanti, più. Mimmi, mi senti? Dimmi. Sono in macchina, torna. Hai sei, a ripetere il 28, ho buttato una salina, poi altro questo. Altro che? Una salina. Figlia, in macchina sono, torna. Oh, figlia. Sei, che non c'è niente, figlia. Guarda, ripetere, avanti la salina. Figlia, la bassa, sono. Cosa vuole che dica? Oggi con queste commissioni capo è una cosa tremenda. Devi andare. Le cose devi fare e lasciarle basta. Per dici a me, mi poco fa mettere con la prima per il decodere qua, basta parlare, mi sono uscito. E se vogliamo già. E cosa volete fare? Mi dite me, mi dite me, solo fatte. Io me ne sono accorto ieri notte che si è fermato tutto e lei ha fatto la ricerca dei canali. Ma tu te lo sai fare, ma ci sono persone anziane che non ce la fanno anche questi giovani che si combinano. E quindi non c'è tanto di canali che non è chiaro. Non è che mi prende soluzione, c'è un altro tempo e tutto. Vabbè, questo è poco ma è sicuro. E volte, se devi avvenire una casa, non è più. Obrigado, menino. Pensa na pena branca, vendo que não tem nada fora. Como é que você me diz? Eu já te sinto bem, já. Sim, sim. Oh, me diz o quê? Como é que me manda? Me diz o quê? Ah, bonitinho. Ultimamente. Ah, filho. Já te sinto, Pinocchio. Tu me senti? Lucia, l'hai sentito? Lo senti la persona? E io lo sento lì in macchina. Lo sento lì in macchina che era da casa. Adesso che ti sento, lui è dalla macchina, sarà a casa sua. Dice che arrivi tre. È truco. Se sono in macchina. Oh, io. Ho detto che ragione già l'antenna, Ma se dove? Non andiamo a cappuccio, non andiamo. Ma tu già non giurata, cosa così? Come? Capisco, non fa niente. Non è nata l'ultima. Oh no, un problema, un problema. Ha un problema, come dire. È tutto a fare con mano. Lo faccio notare, se ne devo fare con una cosa stessa, che è offerta, che pesca non è Noa, che è criata, e tu. E tu, se non è buona, lo dico di tu. E se tu da prima in qualche razza, no. Poi ti si pesca e diventa un razzo di scuro. No, no, ma tanta soluzione, ma no, si può fare, no, non funziona da noi, da noi, non si può, perché si muove mai, sarà antichi, la potete incannettare. Oh, ti fa che fregai tanto il cucia, spesso è la dignità dei due. Oh, ma la gioco, che tiro questa telefonda anche del muro, in questo. Non sta a mezza, la, in mezza è presente il corpo. Io, Natalie. Come c'è questo? Pedocemolo. Ehi, batteria non fa che se danno, si sono collegata, sì. No, mi sono attaccato a questa batteria, ci sono morte, sono ben ricchini, non si chiude nulla. Ma lui si sa che la batteria che sta solo che va per il calore, danno un po' questo. Ando, sì, sono mortezzo, per eliminare, sono attaccato questa batteria, ben attaccato, so. Si l'attacca per l'abilitatore, non si chiude nulla. La batteria è per il stabilizzatore in giù. Se io vedo la sua batteria del fusto, attacca subito il rappresentatore, non può per te. Io attacca la sua 2.20, io già. Buonanotte. Allora, se tu stacchi il lineare dalle batterie e attacchi solo il caricatore, siccome è una costante di circa 100 Hz, servizio di commutazione non livellata, si copia tutto, non c'è. Se invece di questa batteria collegata, dove è tranquillo? E gli attacca, non c'è questa batteria, non gli fa niente. No, finché si muccia da, si chiude questa batteria. Tanto la macchina e l'alternatore che hanno caricato la batteria si copiata. Se mi faccio più di sotto, ma finisce la batteria che non c'è niente di tempo, mi sta finita la corrente. Ah, ma che brutta. Che senso è questo che è? Allora mi senti. Certo, poi Natalino ho sentito chi c'è. Sì, ci sono io, c'è stato un altro che è entrato ma non si sentiva se colpo. E ok, da procedi a vedere se parte la vita problema. Allora, gli altri più gratuiti nuovi. Natalino. La bisogna io, un attimo che scendo. L'ho preso tutto. Lì che si è troppo. Ciao Raffaele, dove sei? Sei in bacino adesso? In macchina, sono la macchina, sto scendendo. Ah, per quello. Sempre no. No, bacino nel senso, lui arriva qua a 9.30, era 9.10 adesso. Un po', mi sembra che già mai, pensando un po', arriva sempre. No, non sapevo che era in macchina, infatti c'era stato un abbassamento di segnale, infatti, come mai? No, anche da risulta di questa situazione arriva sempre bene. Dalla macchina, parlo dalla macchina. No, beh, forse per la zona tua è più favorevole. No, dopo l'antenna o la matta va arriva molto più forte da me. Sì, anche dalla matta va a prendere un quarto. Cos'è? A pizzi? Rimancano radiali? No, no, anche ultimamente, no, no, ci sono tutta un'altra cosa. Ehi, ritornando con la discussione di prima, mi ha detto metti due VK200, e dove le metto queste VK200? Su positivo? Allora, sì, le VK200 le metti passanti su due poli, cioè una sul negativo e una sul positivo. Poi da una all'altra, da una e l'altra, per così dire negativo, sia all'ingresso che all'uscita delle VK, metti due connettori a 100.000 picco, di quelli a disco, ceramici, ok? Sì, quindi devo ponticellarli il positivo con il negativo con queste induzzanze. Induzzanze, ponticellarli. Sì, fai passarli, sì. E questo mi taglia la radiofrequenza. Esatto, blocca la radiofrequenza rientrante, il condensatore si trascarica, trascarica a massa, capisce la scarica. No, no, non c'è problema, passi all'ingresso e poi dopo di che passa la pulisci, così che non è problema. Questo come farlo all'interno dell'alimentatore questo lavoro? Ok, dove lo fai? Nel senso che quello fosse capito, no, vabbè, siccome non sai cos'è quello, ci sono un sacco di fili e controfili, l'alimentatore c'ha l'uscita quella grossa per la, diciamo, grosso amperaggio, e poi c'ha quelle piccoline, conviene mai rimetterle, siccome ce le ha separate le uscite, questo l'alimentatore. No, no, no, sono uscite grosse dove c'è l'amperaggio alto, ma come fai tu, costano una schedina, se c'è un pezzo di quella schedina, mi viene fuori. Ma le vedono già pronte o le devo fare io? Fate un figlio, no, le ci fate un po', se poi devi ricollegare, no? Sì, vabbè, no, dico, devi ricostruire, perché costruire non è sempre, ci vuole il filo di con la sezione, quel numero di spine, eccetera, eccetera. Cosa numero di spine? Perché c'è una sfida, ah, se fanno benissimo. Io le ho montate, sono ultime, veramente ultime, no, non ho più credo che questa vista. Perché ho la massa al centro, ho creato con un po' di apparato, non ho. Grafico va completamente bene. Comunque prima di tutto bisogna mettere la massa a terra e tutti in coso, quella era la prima cosa che dovevo fare, dopodiché passo al discorso metodo, quindi ponticello quei due positivo e negativo con le luttate, dopodiché ci metto questi due condensatori a 100.000 picco, li metto sempre nello stesso modo. Sì, no, no, non nello stesso modo, aspetta, allora tu le due induttanze, le due Q400 le metti passanti, no? Ok, come un fuggibile, oh. Dopodiché il condensatore che ce lo metti in parallelo, ok? Tra il positivo e il negativo, uno all'ingresso e uno all'uscita delle due VK. Ah, allora è contrario di quello che stavo dicendo, no, io pensavo le induttanze le dovessi mettere in parallelo, diciamo, tra il positivo e il negativo, e il condensatore invece è il contrario. Il contrario, perché se metti le induttanze in parallelo fai il cortocircuito. Infatti mi stavo venendo dei dubbi per quello. Quindi devo mettere i condensatori in coso in parallelo, le induttanze in coso, sul positivo. In serie, una sul positivo e una sul negativo, come fuggibile? K. Una sul positivo e sul negativo, il condensatore li metti così, come se ne sei messo, risolto il problema. Vedrai che se non si carica fino al 70%. K. Quindi ti avvicino più non. Ah, salve. Ciao, come è che mi sentisti qua? Ciao, Gianni. Ciao. A me lei non lo sapeva perché non è cammino né stufa. perfetto, io per te, visto là, che non c'è che ti portava il tutto, scappa. Quindi tu stai chiedendo di un cesso? Sì. Vabbè, vado a cenare. Mi saluto per la sentiamo dopo, va. Ciao Gianni. Ciao, una carina. Sono finito per dovete cenare. Sentiamo magari tra un mezz'oretta, così un'ora, va. Ciao, ragazzi. Ehi, ciao già, buona carica, non so se ci sarò a quell'ora lì perché domani devo andare presto, dai. Non sono tanto in forma oggi, dai. Devo recuperare le forze, comunque buona carica, buon tutto se non ci sentiamo, buona giornata per domani. Sì, ti ascolto bene, diciamo non c'hai un segnalone, sei intorno alle 7 qua, il segnale 7-8, però la radio è abbastanza buona, e c'è l'ANA 48 sta dicendo. Sì, me l'hai detto, ti stai aiutando, però la radio è bella squillante. Dimmi un po', poco fa mi ha dato il controllo di segnale, però di radio non mi ha detto niente, come ti arrivo di radio? Mi senti, Pinuccia? Tu, se stai parlando non ti sento, Pinuccia, non hai abbassato qualcosa? Ascolti. Ah, sono in macchina. Aspetta che sta parlando. Stavi dicendo Pinu. Ti ha abbassato un pochettino di segnale comunque. Guarda, rimettiti come di prima che ti ascoltavo bene. Dimmi Pinu. Sì, adesso è migliorato. Purtroppo adesso mi si sta alzando il QRM, ho dei disturbi che stanno creando un po' di fastidio, là. E c'hai quei silbi perché il segnale sale e poi diminuisce di colpo, come che sei quasi in movimento. E poi c'ho questo disturbo sotto, non so da cosa dipenda, per cui un po' ti crea problemi. La radio com'è? Vabbè, Luigi probabilmente è molto più aperto rispetto a me per la zona tua. Che presente, io non sto sollevando, potrei anche alzare, ma non mi frega niente, va bene così, là. E posso fare qualcosa di meglio per farmi sentire. Cappa, magari per farti sentire dagli altri, se riesci a mettere mai una direttiva o qualcosa del genere, così uno riceve e con l'altro trasmetti. Questo passaggio non ho capito, certo c'è qualcuno che modula? Grazie dei complimenti, dai, il signore ha detto che sono l'unico che arrivo da Sassari, insieme a Luigi e cosa, Gianni da Italy. Cosa? Dice in Natalino, c'è Gianni, dai Gianni, aspetti, provo a rilanciare a Gianni se riesci a sentirlo. Gianni, avanti. Sì, ciao, veloce, buon tutto, buon corretti, dai, buona giornata per domani. Interrompo un attimino che mi hanno chiamato, scusate. Prova. Hola. è arrivato qualcuno su 10. Sono rimasto io perché non ti batto. Ti abbatti. Chi è che c'è il piccolino sotto, c'è qualcuno che parla? Io sono piccolo e nero. Ciao Peppa, no, non parlo di te, parlo un piccolino. Qualcuno sotto nel fondo che sta parlando in mezzo al QRM, però non capisco chi è. Ciao Robert. Comunque l'unico distante è solo quello che arrivi, dove la prima busta a Natale. Break. Avanti il brecco. Buonasera, da questa parte Timonteo. Timonteo. Allora adesso va, Pierpaolo, Natale, poi chi c'è? Io ci sono, Timonteo. C'era Gianni, c'era Luca, c'era Bobone, tutti gli altri che si erano fatti. Tutti a mangiare, sono già andati. Io li ho già mangiati, guarda. Tu vai già a fare. Sì, quasi, tu stai mangiando un arancio. Aspettate. Io. Yeah. E tu Natale, ha buffato, eh. In Napoleone c'è pure bucato. Con questo diversamente mi ascolti, Gerba? Molto buono a radio. Cos'è? Questo è un altro giocattolino, non, non si può dire. Cerca di capire. Io ho capito. Più forte sicuramente di segnale arrivo. Ciao passaggio. Hola, prova radio, 1, 2, 3 9, 15 Kappa. La radio è una Super 5 Turbo. Turbo diesel. C'era anche Luca, Luca ancora ti sei. E tu vedi solo, per qua. Sono qua. Bello, ma forse non l'hai sentito. Sono qua. Ah, vabbè, lui che sta parlando piccolino, mi pare troppo basso però per essere lui. Antonio? Dimmi Natale! Ma perché mi confondete per, con questo Natalino? Chi è questo Natalino? Io sono Timonteo. Tu sei copiato bene Natalino. Non sono Natalino, chi è questo Natalino? Io sono Timonteo. Buonasera anche a lei Timonteo. E la pensai un casino basso, anche tu, cazzo di auro. Natali. Oh. Dice, sta leggendo Gianni che ti sta lasciando anche tu con la caffè del caffè, vero? Ehi. Gianni lì ti riparlo. Ehia. Almeno senti qualcosa di recente, beh, abituato male a tenere. Qualcosa ascoltavi prima? Lasciamo perdere, che è meglio. Ho sentito cose qua. Ho sentito l'impianto di una persona, guarda, favoloso. Ma quello di Gianni stai parlando? Sì. Almeno ha trovato qualcuno competente con attrezzature di un certo livello. La parola ti ha fatto sentire. E allora? E le carte che ha fatto lui, come al vanno, le sentite? Eia, le devi sentire Roberto per renderti conto, non si può spiegare. Infatti già me lo immagino, quando c'è delle valvole è tutta un'altra musica, no? Infatti quando io dicevo ti ricordi con 8 watt e voi, ma come ti vai con 8 watt a costa? Quando tu c'hai l'altra fedeltà, non c'è la vera potenza al rumore, quello senti la vera altra fedeltà. Questo è potente e... Praticamente l'hai mai sentito tu quando mettono un disco in vinile e non si sente il benché minimo fruscio, si sente solo quando inizia la musica. Sì, sì, certo, c'è un impianto di un certo livello, naturalmente poi per quanto capita anche il suo lavoro fare quel tipo di discorso di ricostruzione. Io non avevo mai visto cose del genere. Ma mi sta dicendo che te ne ha dato uno a te e devi cercare l'alimentatore però. No, già abbiamo procurato tutto. Perché è tutto separato, capito? Non è la solita cosa, capito? È fatto in un modo un po' particolare. stessi, non lo so, non è male, era una bella cosa sentire. A te ti ricordi quel giocatore che ha fatto sentire, lui sarà ancora meglio. Quando sarà finito la situazione te lo farò sentire, Robè. Ma è per le casse cosa stai facendo? Vogliamo farle, se no ci vogliono 3.000 euro a comprarle. La nostra situazione è a fare, è meglio costruirle su qualche progetto, i componenti magari, i componenti ce li hai già o te li devi comprare? Devono arrivare, non ce li hanno qua. Ma la fusola dove ha preso i componenti? Mi li sta facendo arrivare già. Ma chi Gianni? Gianni Doppiolumo o Gianni lui? I ritiri? Quindi non li stai prendendo da Fusaro? Sì, li sto prendendo da Fusaro, ma li stiamo facendo arrivare perché non ce li ha. Gli abbiamo chiesto delle cose specifiche proprio. Acciare state usando, cosa state utilizzando? Però sono un po' specifiche le cose, non sono le solite carte normali, sono carte ad alta resistenza, capito? Sì, naturalmente, se usi quei tipi di amplificatori deve avere la tua palata alta resa, la deficienza, se no come che non è... Bicconic. Come? Bicconic. Bicconic. Sì. Sì, ma quante virgole sta facendo? Non lo so, lui ha detto che sono bicconiche, quindi... Vabbè, bicconica non significa niente, può essere un subwoofer bicconico, un woofer, un medio basso, e vabbè, su che frequenza lavoro. È una casa solo, dove non stai? No, due sono le case. No, non case, vuol dire due altoparlanti, no? Però quando le senti è tutta un'altra cosa. Da quegli amplificatori e transistor che costruiscono, mamma mia. Sì, è un'altra musica, un'altra minetta. Tu hai avuto il piacere di ascoltarlo, io già li conosco e so come vanno. E sono anni che dico, molte persone si fissano. Dico, quando senti la velata fredda ti rendi conto che hai sempre ascoltato Mondezza. Se ti sto dicendo a me, non mi preoccupo, non lo puoi neanche alzare, che sennò è troppo forte, no? È una cosa allucinante, troppo bello. Io ho sentito un disco, ho sentito la voce di Olivia Newton-John cantando, e anche un pezzo di organo sentito, si fa sentire tutti gli strumenti praticamente, è una cosa allucinante. Sì, lo so. Io mi ho fatto un regalino di Natale, mi ho regalato delle casse di un certo livello, ero anni che le desideravo, ho trovato un'occasione e me le sono prese, abbinate a quel giocattolino che ti avevo fatto sentire, mi sembra anche a te. E se lo senti è un abisso rispetto a come era prima, se ti piaceva prima adesso è un'altra musica. Quel giocattolino è bello. Lo so, per quello che costa è una bella bestiolina. E quello tira fuori 8 watt per canale. E non ce n'è bisogno di potenza in un tappeto del carno. La musica bene devi sentire il boss. Si è costruito la puntina anche del giradischi di anni. L'ha costruita proprio lui, l'ha fatto tutto il circuito, tutto quanto lui ha fatto. Me l'ha fatta vedere, è una cosa allucinante. Lui mette il braccio, tranquillo, per sentire il minimo fruscio, se lo sento io. Poi le valvole non sono come transistor che ti amplificano tutta la mondezza eccetera eccetera, quelli sono amplificatori in classe A, lavorano su certi tipi di discorsi, non sono come transistor. È tutta un'altra musica, tu quando senti quella musica di questa è la fedeltà, dopo con gli amplificatori a transistor di questa è mondezza. E adesso facciamo riprendere a Pierpaolo, avanti Pierpaolo. Continuate il discorso, continuate pure. Vai Gianni. Ciao. Vai Gianni. Natalino entusiasta, voglio vedere questo impianto quando è finito. Lo proviamo e facciamo tutte le prove. Voglio vedere come va. Guarda. Non hai mai sentito musica così, tu te lo dico io. Ne ho sentito musica. Guarda, io ho un amico che c'ha l'impianto, le case tutte Bose, l'amplificatore che è Marantz, il piatto Technis, il CD mi pare sia Sony, il sintonizzatore non so di che marca è, mi pare, non mi ricordo come si chiama, però devi sentire che suono c'è quello impianto. C'è la mia fratello Bose, lo so, però se tu senti la roba che ti sto dicendo io è tutta una strana musica, tu l'amplificatore in alto, Marantz lo prendi e lo tiri al muro. E anche Marco, mio cognato, ce l'ha così, lo stesso come Adriano, e Adriano quello della Croce Blu ce l'ha, credi. Lo so. Perché Pina non le voleva più con le casse grandi che aveva, se c'era le gesse da 150 watt mi pare, erano troppo alte, ingombranti, e ha detto buttale fuori, le ha date al cognato, quello si è preso l'impianto Bose, c'ha su due woofer più le casse. Lo so, però questo è come un'altra musica già. È potente, e poi oltre che essere potente è pulita la cosa, no, niente a che vedere con quegli amplificatori lì. Roberto ne può sapere qualcosa. Ok, vabbè, già, stiamo parlando di confrontare un radione con un impianto wifi, cioè tu quando senti quello che stai dicendo tu hai ascoltato un radione, quello che stai dicendo natura è natalino o un impianto ad alta fedeltà? Per l'avione c'erano i migliori pezzi che c'erano in commercio prima. Già, stiamo parlando di roba a giocattoli, qua stiamo parlando di valvole e di altri tipi di componenti, e io sono un discreto impianto e ti dico, c'ho il Marantz di un certo livello, l'alto topo di gamma, un amplificatore di un certo livello peso a 20 kg, ne ho un altro da 23 kg più grosso ancora, non c'è un filo di distorsione, un amplificatore doppio mono, doppio fin, cioè due stadi finali separati, è una cosa professionale. Ti posso garantire quando ascolti la valvola è un'altra musica. Poi ci vogliono casse di un certo livello perché scendono con le frequenze lì. Eh beh, certo, non lo metto in dubbio che sia un buon impianto, ma Marantz non è un giocattolino, che contraddico qua perché si sa che era la miglior marca che c'era per gli amplificatori, allora una delle migliori che c'era in commercio. Poi c'era la Tech, c'erano tante altre, però non valevano quanto il Marantz. Già, stiamo parlando di discorso commerciale, qua stiamo parlando di prodotti commerciali, Marantz è un ottimo prodotto, un ottimo prodotto qualità prezzo, un bel suono, infatti si parla sempre di suono Marantz, però qua stiamo parlando di valvola, valvola contro transistor è già presa in partenza, è tutto un altro tipo di modulazione, la voce, tu quando devi valutare la qualità di un pianto hi-fi devi ascoltare la voce umana, quando tu ti siedi vicino alle casse e senti come che ci sia una persona che è dietro di te che sta parlando, a quel punto dici quella è l'altra fedeltà, è inutile sentire bombardamenti di batterie, di cose del genere, la valutazione dell'impianto si fa con la voce umana, quando tu non riesci a sentire la differenza tra la cassa e quello che si chiama la voce di una persona che c'è vicino, a quel punto è l'alta fedeltà, tu con un transistor il migliore che può essere, non riesci mai a avvicinare, cioè ti avvicini, però il realismo che ti dà la valvola non te lo dà la voce umana, è il transistor. Beh, non lo metto in dubbio, anche in frequenza i valvolari sono sempre più caldi come voce eccetera eccetera, questo senza ombra di dubbio, però da qui a dire che era il giocattolino il Marantz no. Già, io giocattolino parliamo a livello economico, perché se ti faccio nome di apparecchiature, cioè con un potenziometro di certi marchi ti compri un amplificatore della Marantz. Io ti ripeto, ho un grosso amplificatore, un ottimo amplificatore della Marantz che me lo invidia un sacco di gente, perché era uno che avevano portato un prototipo, diciamo, uno in prova, che l'avevano mandato qua, l'unico che avevano portato a Stasia, io ero molto amico di Paolotto e lui arrivavano i campioni, all'epoca Paolotto era il numero uno a Stasia, adesso hanno abbandonato la campionata, parliamo di 30 anni fa, 25 anni fa, e tutti i prodotti dell'ultima novità le portavano. Questo era il top di gamma della Marantz, è un amplificatore quadrifonico, lavora in quadrifonia, ha un sacco di funzioni che nella verità sono esagerate per un amplificatore normale, uscite preamplificate, uscita per un oscilloscopio, per decoder di altri tipi di cose, di filtri, c'è una marea di cose, doppi controlli di tono, c'è l'impossibile con l'amplificatore, però quando tu ascolti una valvola, questo c'ha un suono spettacolare già, pochissimi transistor suonano come quello, però quando senti la valvola stai già perdendo in partenza. Vabbè, staremo a vedere. Lavorano in un'altra classe già, abbi pazienza. Sempre Gianni te lo dice anche lui. Io cazzo mi ho sentito me. C'era Angelo dal Maran. Se mi fa che bum li va, se io lo intendo con tre enochi osso. Se attacco quello che faccio io a lui non lo sento più. Cioè non sentono più la sua musica. Sì, Vattorino, so che le valvole sono migliori come... diciamo che il valvolare è stato sempre migliore sia negli apparecchi radio, sia negli apparecchi... anche i televisori valvolari. Ma Roberto ha detto che era un giocattolino il Marantz, non è così. Perché allora, piatto Technis, amplificatore Marantz, via dicendo, erano le cose diciamo che compravano le persone che potevano permettersi, uno che gustava nell'altro perché erano impianti come si deve. Ce l'ha Marco, mio cognato, il Marantz, ti dico che è veramente un amplificatore buono, perché io ho sentito con le casse Jensen, va molto bene, niente da dire. Ma quante portano queste casse Jensen? 3.000 euro come quello che mi sto facendo io? Non lo so l'altro di quanto costa. Lo usaci. Tanto tu sei amplificatore Marantz. Solo le casse che mi sto facendo io costano quanto tutto quell'impianto. Ah, non le trovi neanche in commercio quelle casse. Sì, Natalie, non è che forse non mi hai capito. Io non metto in dubbio che il tuo sia migliore. Però ho detto che il Marantz per me non è un giocattolino, ecco quello che ho detto io, quello si sente bene, poi se il tuo è in classe A è un'altra cosa, però messo in classe B è uno dei migliori. E mi confronto a quello, è un giocattolino, come dicevo detto, perché è una cosa commerciale. Quello che ti sto dicendo io è roba professionale, capito? Praticamente è roba che si ruba una risposta con un piatto del genere, guai. Vabbè, Natalia, adesso non diciamo cose che non bisogna dire, dai. Come no, cazzo. Quindi quando la musica da culo, tagliati si bollano gli amici a cucciare. Allora, c'è da dire una cosa, il discorso di transistor ha delle prestazioni sicuramente alla grande superiori di gran lunga alla valvola, parliamo come prestazioni numeriche, come distorsioni, risposta in frequenza, eccetera, eccetera, non c'è confronto, cioè rispetto alla valvola, la dinamica, e ci sono tanti parametri molto superiori alla valvola, perché la valvola, con l'amplificatore della valvola che ti sta costruendo a lui, se tu ti guardi la distorsione, magari sarà 1%, la massima potenza, un transistor di nuova generazione c'hanno 0,000 eccetera eccetera come distorsione. Io ti ripeto, c'ho amplificatori grossi, quello professionale 300x300 RMS non musicali, che pesa 25 kg con due doppio mono amplificatori, quello lì di più di 300 watt a manetta, e non c'è un filo di distorsione lineare perfetto come coso, come risposta in frequenza, però il suono della valvola è diverso, perché la valvola ti dà quella risposta in frequenza proprio sulla voce umana, spettacolare sulla voce umana. Non è vero. La valvola lavora in seconda armonica, il transistor in terza. Quindi il fondamentale dell'A sull'ottava superiore è un disaccordato. Non è che il transistor non serve. È una cura. Genera terza armonica, buonasera a tutti noi. Sì, vabbè, devo continuare il discorso, ti amplifica tutta la corrente, la valvola, così, mentre lavorando in classe A. C'è una resa molto inferiore al transistor a livello di rendimento. Sì, ma infatti non si parla di rendimento nella valvola, non si può parlare di fatto. se tu senti un audiofilo che parla di classico, no? Allora, il discorso è questo, se apparizzati gli strumenti, ad esempio il pianoforte, no? Questa è la prova che tu non è questione di potenza. Un pianoforte ascoltato col transistor è soffocato, ma proprio non c'è. Ascoltato con la valvola è brillante, ma sono brillanti tutti gli strumenti. Quindi non è più questione di potenza, a parità, gli strumenti è molto più potente. Vabbè, forse come colposita, infatti parliamo di colpo, però se parliamo di cose, di valori fisici, nel senso di risultati, nel senso di resa, non parliamo di resa acustica, resa elettronica parliamo, cioè il guadagno di un amplificatore a transistor confrontato con il guadagno di una valvola, non c'è confronto da quel punto di vista, però come musicalità, la valvola non c'è confronto col transistor. Allora, non bisogna sottovalutare i frutti a transistor. Io questo l'ho sempre detto, se ogni sito si ne sa qualcosa, e tanti altri, però esborsare 5-6 mila euro per un finale da 200 watt poi non lo puoi alzare il volume, perché è carico di istruzioni nel senso che posa, nel pizzo posa, e quando posa nettamente, quindi la terza armonica è prevalente in un modo allucinante. Ecco cosa succede, non è che il transistor non c'è, ci sono transistor che se la mangiano la valvola, ma se la mangiano proprio nelle prestazioni. Poi però siccome noi purtroppo abbiamo l'orecchio umano, non l'ascoltiamo con un oscilloscopio e neanche con un distorsimetro, allora succede quello, perché sostanzialmente chi ascolta la musica è il nostro orecchio. Ecco perché la seconda armonica è più consona. In effetti più primo, sei più simpatici, fai una serata. Perché? Perché riuscivi a capire, ti dà il massimo della potenza, gli strumenti sono tutti avanti, non c'è distorsione, perché non è di terza, è di seconda, quindi là sarà là, l'ottava superiore dell'A sarà sempre un là accordato. Ecco il transistor che è fregato da un amplificatore da 6 watt, lui magari è da 110. Sì, come è possibile. Quando voi te lo dimostro, mi dai 110 watt, lo colleghiamo, che ne so, a 16 ohm, la differenza che vuoi tu, lo sentiamo pompando, poi sentiamo quanta distorsione ha quell'orecchio, e vediamo un pochino dove va a finire. Ha un suonaccio, ha un passo, è carico di distorsioni, ma è inascoltabile. Il transistor è una io ne ho qua, ho le croniche della sciarpa, guarda che stacca la sciarpa, è bellissimo, Non c'è niente da fare, non ha resistenza, il suono è chiuso, questo succede. E fondamentalmente uno che ascolta musica vuole il suono, non è che deve sentire l'oscilloscopio, no? Però hai perfettamente ragione, del resto il transistor non c'è paragone a livello di dinamica, di quello che vuoi, non c'è da fare. Però ti dà anche su una cosa, ci sono amplificatori a priori che sono chiamati diodi allo stato solido, aiuto nella dinamica. E vabbè, poi magari c'è stata anche l'evoluzione della valvola, il discorso della valvola magari non è stato amplificato nel senso come è stato amplificato il discorso del transistor, che alla fine poi il transistor sono arrivati a delle tecnologie allucinanti, cioè delle dimensioni, io basta confrontare l'amplificatore che ho io, pesa 25 kg, un 300 per canale RMS, pesa 25 kg, adesso ci sono questi MOSFET da 1 kW che pesano 8 kg. Quindi, so cosa mi riferisco. No, ma la differenza è questa, Roberto. Allora, no, un attimo, magari se l'amplificatore tuo è veramente buono, quello fatto così da 300 per canale, perché allora esistono una transistor a Germania, bassissimo rumore, compagnia bella, di calore, comunque il migliore è quello caricativo che hai menzionato l'altro giorno, e prendendo atto perché quello lavora in seconda armonica. Ma prevalentemente un finale di potenza che uno mi racconti che si sente bene un 100% di quelli che è commerciali, beh questo non è vero, perché io li ho ascoltati tutti, altrimenti sarebbe da fissi, no? Non prendere e costruire finali a transistor, andrebbe meglio, due transistor, un push-pull, un alimentatore, tutto fatto. Sì, sì, infatti quello che ha detto Gianni, ha detto Mara, ha detto sì, ma sono giocatori di confronto al discorso che abbiamo fatto noi, tipo Mekitos o cose del genere, altri giocatori americani, Matt Levison, Corran Jones, cioè che sono apparecchiature che costano decine di milioni. Mara è un buon amplificatore a livello commerciale, 3 milioni diciamo, anche se c'è qualcosa di meglio, perché ne ho ascoltato tantissimi, però direi anche questione di gusti. No, aspetta, allora, bisogna fare una distinzione. Bisogna fare una distinzione. La Ferrari è una macchina italiana, però la Ferrari è una macchina italiana, ma non è questa. Quindi la differenza c'è, esiste. Quindi il Model 9 della Marantz costa 5 milioni, è un valvolare di alto blocco. La Macintosh ultimamente ha fatto un tipo di preamplificatore, un tipo di pre-valvola, valvola transito. Esistono con finali della Macintosh a transistor a valvole che trovano ugualmente bene, però la cifra da sborsare è allucinante per avere un transistor di classe così. E alla fine, confrontando il peso, quella transistor pesa più di quella valvola alla stessa potenza. Questo non si è mai spiegato, perché le correnti circolanti con il transistor sono micidiali. Ho un altro fatto, se il transistor è un amplificatore ad accoppiamento diretto, e cioè non ha un trasformatore in uscita, nel suo push pull, e quindi neanche un condensatore, perché hanno eliminato tutti i percorsi che hanno lavorato sul controfase, avverando appunto quella tensione di offset, se appena il push pull, malauguratamente, appena dovesse iniziare corrente, bene, corrente continua, attraverso gli altoparlanti, stai tranquillo che la fusione dell'altoparlante è certa. Infatti, detto bene, ci sono dei transistor, quelli che lavorano in classe A, che alla fine il peso è quanto una valvola in classe A, un amplificatore a valvola in classe A. Oltre a quello, abbiamo un altro problema, non trascurabile del transistor. Il transistor, quando è messo a un certo volume, e che in pratica è portato a potenze già sopra i 25-30 watt, moltissimi amplificatori a transistor, per cui marche plausionate, cosa succede? In pratica, sulle altissime frequenze, quando inizia a poggiare, dà segnali sinusoidali, diventa un segnale continuo, perché non dà quadra, poi diventa quasi continuo, brucia il tuo, lo sapete? Sì, infatti, io mi dà anche attenti, infatti, soprattutto in fase di spegnimento dell'amplificatore. No, non solo in fase di spegnimento, proprio quando tu stai alzando il volume, io invece ti dimostro che con un buon valvolare, messo a tutta birra, anzi con un valvolare scalcinato, messo a tutta birra, senti come poppa e non succede niente, nulla, i filter proprio sono quelli che non ne soffrono per niente. Perché? Perché la sinusoide è sempre sinusoide, e cioè il segnale ha una variazione regolare del tempo, invece una corrente continua è piccolamente in briga, cioè cosa vuol dire? Tu mi direi, ma c'è il condensatore che lo disaccoppia? Sì, però una corrente alternata in onda quadra, quando foglia, lo brucia comunque il filter. Guarda, ha detto bene, ti faccio un esempio per esperienza personale. Io ho questo amplificatore grosso, questo finale 300 più 300 RMS, c'ha gli indicatori di livello ad ago con picchi di 600 watt, arrivava con l'amplificatore. Ho lavorato su queste casse monitor piccoline della Technics che hanno il sistema di blocco delle sovrattensioni, diciamo, le protezioni a comando elettronico, dietro c'è un relè che comanda tutto. Con l'amplificatore Marantz intervenivano subito le protezioni, diciamo dandogli un'ottantina di watt, con picchi di 600 watt non intervenivano con quello grosso, con Revan, perché era un segnale veramente pulito, una qualità di segnale eccezionale, non avevano più distorsione, mentre con Revan, come si chiama, con Marantz, con meno potenza intervenivano subito le protezioni, appena superavo gli 80 watt attivavano le protezioni. Sì, allora, in pratica lì si tratta di un sistema, no? Se vogliamo chiamarlo così, è messa all'uscita delle casse e controlla il picco e raddrizza un attimo di tensione e poi carica un circuito passata non vede. È una testeria quella roba là. Ma il problema non sarebbe neanche quello delle protezioni o giù di lì, è la qualità di emissione del finale stesso. Perché un finale dirotta da un segnale in bassa frequenza, no? Questo sarà di bassa frequenza, bene. Deve mantenere costante nel tempo l'andamento della sinusoide. Il decadimento armonico deve essere regolare. Siccome non esiste nel transistor il decadimento armonico, si può chiamare montezza armonica e Fourier. guarda che è una cosa micidiale, e ti giuro che a Francisco abbiamo fatto una marea, compresi i GPC, non sono i GPC, polar transistor, che sono una via di mezzo tra il transistor e il MOSFET, compresi anche qui i signori, che quando malauguratamente entrano, bruciano le tasse. Quindi, nelle valvole ci sono più vantaggi che svantaggi, però, e lo ripeto, non bisogna sottovalutare gli amplificatori a transistor ben progettati, perché è molto vicino alla valvola, ma a che costo? E se sono alla nostra portata, perché siamo sempre lì, io non è che sto dicendo che un progettista di filare a transistor ma farlo della per le mani, assolutamente, sto solo dicendo che bisogna sbloccare cifre astronomiche. Sì, no, vabbè, quello, no, ma io ho detto con 8 watt di un amplificatore a valvole, senti, diciamo costruito bene con un certo criterio, come hai parlato tu di quel tipo di discorso che hai fatto l'altro giorno, senti già la vera capretta, però avere un amplificatore a 150 watt, come hai detto tu, a transistor, eccetera, eccetera, però alla fine beh, a sentirlo, a 8 watt non riesci neanche a sentirlo, perché non ti dà, cioè devi esaltare le tonalità, perché neutro non lo puoi ascoltare, devi mettergli un po' di passi, o inserirgli qualche filtro, se no perdi tutto. Ma guarda, allora il discorso è sempre il solito, se tu hai un filare, no, solitamente il filare transistor collegano casse acustiche con filtri, controfiltri, tre vie, quattro vie, poi si verificano locazioni di fase, perché le reti Bessel parlano chiaro, l'Instit parla chiaro, e non si può comunque scappare alle regole matematiche. Anche se empiricamente si possono correggere, non si può scappare in linea di massima una cosa del genere. Quindi in un finale, configurato in classe A, transistor, avremo una corrente enorme, e comunque non è mai da chiamare single embed, perché l'unico che si può chiamare single embed in classe A è quello carico attivo, di cui infatti un solo transistor è il vero amplificatore, mentre che in classe A normale, cioè non a carico attivo, si può definire in questo caso quasi un pull. È per questo che c'è di nuovo la terza armonica. Siamo sempre lì, picchia lì, anche perché il semiconduttore ha quel problema. Ma a prescindere, sono due cose che si stanno confrontando da tanti anni, ma il tutto è limitabile, sostanzialmente limitabile per la velocità, per la dinamica, no, non per la dinamica, aspetta, si accoppiato in parallelo a una buona corrente e si affianca molto al transistor, quel transistor se ben configurato si affianca bene alla valvola. E questione di scelta, comunque per questo di sicurezza, io non sceglierei mai un amplificatore a transistor per spicciarmi le casse, lo testo. Sì, no, ma io ti ho fatto l'esempio di quello del Revas, quello grosso mio, dandogli 600 watt di picco, le casse calcolate a staccare a 80 watt RMS, che hanno il combustibile, come si chiama, il relè calcolato per 80 watt, col Manax appena sollevavo, pum, partiva, questo gli dava 600 watt di picco a piena potenza, l'amplificatore non interveniva perché era un segnale in distorto, pulito, lineare, non aveva distorsione. Ma il problema più grande oggi che cos'è? La scala commerciale, PMPO, cioè potenza molto poco netta e compagnia bella, scatole di tonno che suonano a livelli allucinanti secondo loro, ma sono tutti marchi, il problema è il commercio, e il danaro, no? Che fa quell'effetto, però non è che la Marantz non sia costruire, un attimino, solo Marantz e il capo progettista conosce il tavolo, ma stiamo scherzando. Cioè io me li guarderei bene, assolutamente, e tutta quanta gente che ha una grande esperienza dei palestrani, però si vende il suo buon piccolo amplificatore commerciale per rimanere sul mercato, perché non tutti possono comprare questi finali, questo è il concetto, e basta la pecca, chi si compra quel finale in commerciale va a comprarsi una porcheria, perché poi non è che non è fatto bene, è fatto con questi figli. Addirittura in certi montano le CTK che è un integrato, un circuito integrato, ibrido, così che è una bomba quel finale lì, è una bomba. Però molti figli con le CTK puntavano corrente continua nelle uscite e le cose che facevano. Io ho visto i tipo loro, il manante economico ha le CTK dentro. fa bene, funziona, ma è lontano da chiamarlo Allende. Capo, vabbè, facciamo intervenire anche Gianni, visto Gianni doppio rumo, palla avanti Gianni. Era scappato. Vabbè, forse gli argomenti sono un po', per qualcuno non troppo, c'era poi Natalino, avanti Natalino. Io già ci sono, è Oiaia. A Gianni, doppio rumo, bisogna farglielo ascoltare quell'impianto, già. E così lui dice che lui è. Non ci volevo manco credere io, eppure ho visto con i miei occhi e sentito con le mie orecchie, perché se io non l'avessi visto non ci avrei creduto che era così la situazione. La cosa più bella è che si va per RMS personale, quasi sotto. Diciamo che potrebbe chiamarsi 10 watt, ma diciamola in tutta fiore, chiaramente calcolo potenze pulite con distorsione dell'ordine del 0,05% quasi, e suona perché le casse sono ad altissimo rendimento, quindi lui si libera di quelle casse, sono 16 ohm, a prescindere che se quelle casse gli attacca un finale di quelli che dicono che lavora da 4 a 16, carico con così differenza, tu lo senti flotto flotto a lui. Non è a parlare solo così, a sentire, ma è vero, quello che non è una cosa inimitabile, ma lo può fare chiunque, però naturalmente bisogna farlo, e poi ottenere buoni risultati, ma non è solo quello, è il silenzio, è la pulizia, ci sono tante cose, ma i parametri di un amplificatore non vanno trascurati. Perché il suono non è una cosa da prendere così. Forse uno mi dice, io Mara, aspetta bene, io ho una sacca di scarpe. Ognuno si ascolta, è soggettivo il suono, ognuno si ascolta quello che può. Sì, come il discorso dell'MP3, ragazzi, si sente benissimo, prova a sentire altre cose, a quel punto dici sì che si sente male. Perché quando uno è uscito il coso, i radioni, quel radio è bellissimo, si sente bene, prova a ascoltare altro tipo di cosa, con altro tipo di casse, vedi un pochettino, per fare confronti. Sì, allora l'installazione è questa, io sono un impianto di prima, quindi sono da nessuno, non mi permetterò mai, non è vero, ognuno ha le sue idee, però non sono tutti pessi. Ingegneri come Fulvio Chiappetta, noto italiano come Bartolomeo Aurelia, noto italiano, e fanno finali a vado, però sono tutti imbecilli. Il ragionamento è anche questo, ci sarà pure un perché su questa cosa qua. C'è tutta quanta gente che ha fatto scuola con il transistor, come me, come altri. Non è che noi siamo profani del transistor, ci fa ridere. Ci fa ridere perché è facilissimo da gestire, ma così com'è facile di farci dei costumi interfacciato con le casse acustiche, di far vedere il cartone animato alle casse acustiche. Vabbè, che anche se alcuni ci sono diverse concezioni, diciamo, se senti quello che si fissa con la tromba, dice che la tromba è migliore per questo punto di vista perché la parità di potenza ti dà meno distorsione. Se senti quelli che si fissano con le casse reflex, dicono esattamente il contrario perché il basso della tromba è troppo presente, cioè ci sono delle filosofie diverse, ci sono le filosofie inglesi, le filosofie americane, le filosofie italiane. Beh, il problema non sussiste. Io per ovviare a quell'inconveniente, ad esempio, ho accoppiato il basso mixer al basso chiuso, al mix basso chiuso di casa armonica separata, ma questo non si vede, intanto comunque abbiamo parecchi fattori da prendere in considerazione, anche perché una casa chiusa si comporta con un filtro casa passo a 24 litri ottava, ecco, quindi ci sono troppe cose da mandare avanti e quindi non è semplice spunciarla così, andare lì, ma tutti e due due pedali, no, non funziona così, non funziona, ma il Marante non serve buono quella valvola, oppure quella valvola ha superato questo, no, bisogna mettere tutto a confronto con le orecchie e capire perché succede. Io preferisco la valvola perché credo che sia letteralmente superiore, perché il tubo è un buono, non c'è niente da fare. transistor ha una marea di pezzi, ma questa è una marea di pezzi, nell'audio è allucinante, allucinante. Dopodiché il fatto che un SISVAC possa fare una serata, un SISVAC RMS, così a valvole, è dato dal fatto che ci sono delle casse di guardia che non mangiano potenza, ma per poter restituire tutta la potenza senza mangiarsela, ha bisogno di uno stadio finale veramente pulito, altrimenti se tu collegi le sette casse a un finale a transistor, non ne scampi di libri, ne senti di muri. Sì, infatti è quello. Però diciamo, tu stai utilizzando, che Twitter utilizzi? Twitter normale abbiamo detto, no. Io forse perché ho ascoltato anche altri, vabbè le avrei ascoltate anche tu, io sono innamorato delle, per le tonalità acute, medie acute e acute delle, dei sistemi elettrostatici, li ascoltati e secondo me non c'è niente di meglio, tu mi dirai il contrario, però a livello di tonalità acute l'elettrostatico non ce n'è per nessuno. L'elettrostatico già è un altro pianeta, l'elettrostatico ha una luminosità, una fertilità grandissima, però mancano dei bassi, infatti moltissimi hanno combinato l'elettrostatico con il basso, vedi c'è sempre il rovescio della medaglia, ma stiamo parlando di cose critiche, adesso andiamo a finire, che ne so, andiamo a finire in Lin, andiamo a finire in Vumatrix, andiamo nell'Autilus, e che la finire. Questo discorso, e vedi che poi ci sono persone che sono più scientifiche, che quando tu gli dici che l'applicatore commerciale non serve, poi si arrabbiano, ma proprio perché? Perché chiaramente per loro quello è una buona macchina. Io ho avuto quelle che stai dicendo tu, pannello elettrostatico con le vie superiori e il subcuore con le vie inferiori e purtroppo mio malgrado le ho bruciate tutti e due col mare, sollevando perché non tenevano potenza, per il gusto di sollevare, non te ne sei accorto, è partito il trasformatore, poi sono delle casse americane, non so neanche se si vengono più pronte, costavano all'epoca un'esagerata, erano dei campioni promozionali, avevano portato qua da Paolo insieme al Maras e a un bel piatto micidiale, guarda il piatto non mi è interessato perché era troppo complicato, però quelle casse erano della bomba, cioè c'erano un suono allucinante, non erano grandissime, saranno state una sessantina di centimetri di dimensione di altezza con un sub da 25 e il pannello elettrostatico, però c'erano un suono, una tonalità allucinante, purtroppo quando sei giovane ragazzino ti piace smanettare, ho sollevato troppo e ho bruciato il pannello elettrostatico, alla fine poi gli altopannati li ho lasciati perdere, li ho lasciati in un uovo umido e si sono rovinati anche con gli altopannati. C'è qualcuno che vuole entrare? Sì, che ci sono. Vediamo se Gianni ci sei ancora. Da qui ti ha iniziato. Gianni? Ma è andato via perché voleva uscire o cosa? Non sai niente. Non lo so, stavo parlando di amplificazione poco fa, poco prima di entrare tu, era un argomento abbastanza, te l'ho visto abbastanza interessato, poi non lo so se per caso è andato a mangiare, buh. Sì, mentre la cosa mai, però partiamo dopo un po' magari, buh, risponde, in qualche modo. Ma guarda Roberto, allora, è un po' dura, capisci? È uscita la cosa, è uscita. Tutto è bello, no? Perché fa partire dal taglio, fa piacere che ci siano persone che gli piacciono queste cose, no? Però è molto bello anche ascoltare e non sottovalutare l'altro, io lo consiglio. Però sì, io per guarda, ho preso una punta di visione, un cassetto finale a transito, anche da me, scusate per il piano. Una tutta funzione, ma anche questo punto, qualcuno lo sentisse, perché il finale del centro, mi ricordo, chiamata Natural Sound, è un altro sound, come potete chiamare così, quindi andavano bene, si conoscono da così, però non hanno certi strumenti, non mi mettete le case, poi il faccio, il cinema, il boccio, diciamo anche un po' trascinante, magari che c'era una foto un po' più molata, ma che vuol dire, sono tutte cose che sono da mettere la mano, la foto è bellissima. stati migliori. Migliore. Lui si comporta sempre bene, specialmente per il classe A, A1 e A1. È eccezionale che non siano spiriti di che abbiano una certa prevalenza. E comunque, ricordati una cosa, ricordati questo, moltissimi applicatori transistor hanno messo l'armonizzatore, che è uno strumento che crea distorsione per controbilanciare la stessa armonica e portarlo in seconda. Lo sai quanti applicatori hanno corretto, così si sentono bene robe a testa. A parte di quelli della tecnica, i vecchi nuova classe A li chiamavano, quelli si fa riferendo. I vecchi amplificatori, una linea della tecnica si chiamavano New Classe A, non so se l'avete, era una classe A fittizia, diciamo, una via di mezzo tra la classe A e la classe B. Ma come se avevano l'armonizzatore a bordo? Non lo so, era un sistema brevettato dalla Technics, io parlo una ventina di anni fa, ne avevamo pubblicizzato tantissimo, dice la resa di un classe B e il suono di un classe A, loro lo chiamavano New Classe A come sistema di amplificazione. Era quello che poi la Yamaha incrementò, mandò avanti come zero risorsa, no? Come zero distorsione. Ma inutile, cioè, allora. Principalmente uno porta, mi dice zero distorsione, ma di che cosa? Cioè 0,005, e sarà sempre prevalente, tu mi stai scordando la nocca, e là all'ottavo superiore un indice apportato, sempre accompagnato da sempre dalla terza armonica, non c'è niente da fare, quindi allora, qui non è una cosa di potenza o di volume, ma certo che ci sono transistorizzati che si mandano tra polari, ma certo, te ne faccio vedere un paio che come affinchi si scoppia la casa, però è tutto rumore. Sì, naturalmente è tutta una diversa concezione, diciamo, ricostruttiva. Volevo dire, data di riferimento, darci qualche dritta tu, diciamo, qualche tuo parere, visto che tu hai ascoltato, adesso sei anche tu non tratto nell'argomento. Io la prima esperienza delle valve l'ho avuta con una trasmettrice e trasmettitore a valvole. E ho ascoltato lo stesso discorso sia dal transistor che dalle valvole, nel senso che erano tutte e due sulla stessa banda gli apparecchi, e dal transistor alla valvola si passava un abisso. Cosa vuol dire un abisso? Sì, diciamo, a livello di voce umana, il transistor, io non so se tu mi puoi controbattere, Gianni, a livello di voce umana io non ho ancora sentito un transistor che riesce a riprodurla con naturalezza come la valvola. Ma non è solo la voce umana che li produce, ma poi vedi un altro errore qua. Allora, un ricevitore a valvole è più silenzioso perché la valvola è meno rumorosa in senso di agitazione elettronica. Quindi, un rumore per agitazione di elettroni, un transistor, è molto molto più alto, nella valvola è più basso. È chiaro che poi, a prescindere dal fatto che lavora di seconda, sul canale audio, è sempre meno rumoroso. Ma voi fate sempre con la voce umana, che cosa sentite? Pianoforte, fronde, violini, batterie, gran casse, overture, non so se l'hai mai sentito, facete tutto quello che voi, ed è tutto diverso, completamente un altro mondo. Che voi, una persona, vi vuol dire, io me lo prendo a transistor, allora va bene, anche il mio idraulico c'è scritto Superman nella sua macchina. Sì, vabbè, però diciamo sono due concezioni diverse. Sicuramente stanno quelli esoterici, le persone che si puntano su certe cose, secondo loro una volta che ascoltano quello lì non c'è nessun'altra cosa che possa controbattere. Ci saranno quelli che sono fissati con il transistor di un certo livello, come detto, tutti decine di migliaia di euro, e poi ci sono quelli fissati. Io dico sempre, dal gusto mio, la valvola è sempre il più piacevole da ascoltare. Poi c'hanno anche il transistor, come detto tu, super sofisticati, cosa del genere, ti danno un ultimo suono, però la valvola forse, non lo so, per l'esperienza personale mia, io non è che abbia sentito amplificatori da decine di migliaia di euro, non ho mai avuto il piacere, forse in qualche fiera li puoi ascoltare quel tipo di certe situazioni, però a livello di domestico, di uso domestico non ne ho mai sentito, ho sentito grossi amplificatori, ma non a livello di discorsi, quelli che hai fatto tu di nomi di amplificatori a transistor da 10.000 euro, non ne ho mai sentito. però valvole da per dire, qualche migliaio di euro, ne ha ascoltato, ti posso dire, no, non ce n'è. Avanti, vi puoi entrare? Allora, per sempre i disegni, poi finisce che è un macello, è confrontare queste cose, un macello. Io ti sto dicendo che il problema è un altro, fondamentalmente io prendo due watt a valvole, va bene, prendo due watt e me la sostengo, cioè ho un buon livello audio. Sì, sì, invece di prendere 30 watt transistor per metterti casse acustiche che hanno 150.000 filtri sotto, perché se li metti sotto casse la pernilento sono stati via. Certo non mi dirai che potevi a una coppia di filtro, non mi dirai che connessi un canale da 30 watt ma RMS di quelli di cui ha connessi capo a transistor come aiuto. E dimmi un po' di casse, tu cosa, dico non costruite, di quelle non autocostruite, cosa hai ascoltato di che sei stato impressionato come tipologia di casse? Gli unici che mi hanno veramente sentito sono state le Kitchen e le Redco, che sono quelle casse francesi che hanno il tifono e sopra hanno un tutoristico. Aia, quelle mi hanno portato veramente. Mi hanno portato perché poi le ho ascoltate con il Model 9 della Marantz, aiuto. No, era senza confini quel suono, un suono senza confini, non c'è niente a fare, un suono senza confini, non c'è niente, tuttora è, anche le Nautilus che dicono che sono casse, zitti di tratto, però hanno troppo slacciate nel suono, è una cassa che ho sentito, è tutta a cambiare. Io ho sentito a casa, però non dicono niente. Non, è una cassa che costa una marea di denaro, ha bisogno di una multiplicazione per essere sfruttata. Allora c'è uno spreco di denaro impressionante. Cioè, ma ci rendiamo conto che io mi devo prendere 200.000 euro per sentirmi di sodalla? Ma cosa? Cappa, le sostanze che non ho avuto il piacere di ascoltarle tu. Mi ho ascoltato anche quella accompagnata da un subito adesso. Sì, sono casse belle, sono casse adiose, un bellissimo suono, a me piace tantissimo l'elettrostatica. Nel senso che quando ascolta l'elettrostatica non lo compra più casse normali. Cappa, e quelle italiane che adesso non si è più sentito parlare, che all'epoca erano le SB, le te le ricordi? Le SB sì. Come? Ma le SB sì. ESB. No, lo so. No, non mi è mai capitata quella cosa. Che le guardavano a livello mondiale, diciamo, le riviste specializzate le hanno sempre messo ai massimi livelli, parliamo di casse costruite in Italia, progetto italiano, eccetera, eccetera. Erano, diciamo, le antagoniste ricche delle RCF, perché all'epoca si andavano, diciamo, le popolari erano le RCF, quelli ripianti di un certo livello usavano quelle le SD. Ma guarda, secondo me le casse vanno comunque ben coniugate con il finale, vanno ben coniugate. Si mi posso dire che ci sono combinazioni che vanno bene anche a transistor, per carità, solamente che il fatto di avere un basso medio e alto combinato da un crossover che sostanzialmente fa ruotare in fase di suono in un modo impressionante, non mi pare una cosa tanto aleatica, io ho paura di quei crossover lì. Peccare che non faccio una marea di casse di quel modo lì, non è fatto, le sciogli tutte da zero, progettati, montati, casse tutte, e suonano bene, però almeno ne ho paura, e però nel senso che io sento quel difetto lì, io sento il suono slaccato, non è come un suono a larga banda, ma non di quelli che mortifichi tutto quello che esiste, un suono decente, un suono che... E sia lì, no? anche se siamo un po' come si dice, è una scoperta corta in larga banda. Ecco, vedi, l'icono, se ha una buona cassa di flex, già inizia a essere qualcosa. Ma quanto costa? Marion, ci sei ascolto, Luca? Chi è avanti, chi chiama? Alex, sono. Non c'è Luca, non c'è sentito. C'era un momento fa, l'abbiamo sentito, poi non so che fine abbia fatto, l'abbiamo chiamato un paio di volte, però non c'è più. Comunque c'è Roberto da questa parte, Gianni da Italy e Natalino. A K, saluto a tutti ragazzi. comunque volevo dire una cosa, Gian. Ciao Alessà. Adesso che mi ricordo, dalle casse proprio, forse ce l'avevano di difetto questi amplificatori Maran, perché ne abbiamo bruciato un paio, non mi ricordo di casse. Che le ha bruciate Angelo, mio fratello. Infatti sono andato da Asia, ma c'erano le casse bruciate tutte. Sì, ma Maran se può utilizzare le casse, ma non è che Maran se non è sacro, signori. Cioè, non è che Maran non serve. Ci sono finali della Maran di passo a passo che sono fatti eccezionalmente bene. Io non è che posso dire che non serve la Maran, cioè, ma siamo soltanto. No, no, non sono vincenti, non sono vincenti. Però bisogna dare a Dio quello di Dio, a Cesare quello di Cesare. Io non posso dire la Mara bravo che è stato un amplificatore che ha incendiato tutto. Ma ce ne sono stati tanti di amplificatori che hanno danneggiato le casse acustiche, tra cui ce n'è uno particolare a valvole, che ebbe un discreto successo, bruciava le casse. È incredibile, ma vero. Però era un accoppiamento tutto strano, multitutto, che poi alla fine creava degli innesti allucinanti. Ed era un popolare, però come era combinato? La domanda è questa, non c'era il trasformatore in uscita, era un UTL. Era un UTL. Ecco, c'è questa razza di amplificatori che noi poco conosciamo, che sono figli addirittura del trasformatore in uscita. Ce ne sono certi che sono addirittura accoppiamento diverso. Molti hanno il condensatore e molti non ce l'hanno, per esempio di nuovo mi parlo. Capito loro questo? Ad esempio gli UTL hanno un suono stupendo e sembra quello del transistor. Sì, tappa. Non riconosco però, mi stai dicendo tu. Sì, l'UTL è sempre trasformatore. È un tipo di finale che con dinamica si avvicina a transistor, con il suono è tutto, è tutto valido. Però non è uno stile forza, forza che cosa, oggi va bene tutto, un stato a un'euro, un'inizia. Però la qualità dei trasformatori, la durata delle valvole, lascia tutto desiderare. Il tipo di potenziometri che deve essere usato come applicatore di linea. Cioè bisogna vedere cosa vogliamo ottenere, cosa ci piace di musica, perché poi no, ci sono anche applicatori che con certi tipi di musicalità non ti vanno d'accordo. Sì, sicuramente poi dipende anche da che genere di musica ascolti. Se uno ascolta musica discoteca sicuramente non si mette un amplificatore a valvole. Se uno ascolta musica classica o certi tipi di musica dove ci sono gli strumenti in evidenza, probabilmente la valvola la apprezza meglio. Se devo ascoltare una di musica disco, assolutamente no, non è adatta. Anche nuovi che conosco, quegli amplificatori vanno alla grande, gli audio note, lo stesso sono gli ultimi amplificatori. Ma guarda, se devo dire che l'audio note ha fatto belle macchine, è vero, ha fatto l'Ondaku 100 milioni e ha aperto i finali, le parole finali sono realizzate, diciamo che tirate in positivo, no? Con le griglie mandate in positivo e pompano, che pompano e durano pure come sono fatti tutto, ma avevano comunque loro pezzi a causa del fatto che erano cercati un circuito fantastico. Poi i trasformatori di uscita sono avuti così dalla gente, poi tutte cascate, quelle sono puttanate. Il discorso perché tu il fattore non te lo cambia, siamo lì. Il trasformatore deve essere ben fatto in senso di allineamento di file, deve essere quindi precalato, però il discorso che deve essere fatto con argento dentro, quelle sono queste lì, è un caso che non viene bene niente. Lasciamole a chi ci vuole credere, oppure come quello che porta una pietra, la mette sopra la cassa acustica a scacchi, e la faccia tutto l'uovo magico, il capo magico, mette per rimetto via, lo metti all'impianto elettrico e ti cambia il suono. E questo lo danno a bere i pulli. E avete le pubblicità, diciamo, soltanto per far vedere c'è qualche novità in commercio, per attirare nuovi clienti, potenziali clienti che li prende in giro, come hai detto tu. Vediamo Natalino, riprendi Natalino. Ma quello va a 700 euro al metro? Esatto, è proprio quello di Natale. Ah, ecco. Cioè, ma tieni conto, pure quello che ne viene e ti dice, abbiamo fatto un finale con il transistor Sunken. È vero, è che i Sunken sono musicali. Ma, lo so, è rimasto sempre un transistor, ecco. cantano, come lo esaltano, sono più musicali. È vero però, è vero. E comunque il transistor Sanken è molto facile, suona bene, è duro nel senso che resiste, però è sempre transistor, diciamoci. Comunque la tecnologia è interversa, è passiva gigante, ha migliorato tantissimo gli stadi a transistor, perché poi lo usano con specchio di corrente, doppio specchio, lo usano con posti di corrente allucinante all'uscita del finale. Ci sono tante di quelle cose presenti in un amplificatore che sono, per classificare, non mi fa, qui non mi passano la cinalamica, continuo a parlare, già se ne è scappato doppio rumo, se ne scappa per lo stesso. No, no, mi sono tanto un attimino, sto dando uno sguardo alle piccoline, dai, tutto a posto. Voi ci avete sentito già. Nastasi, ma non lo rintracci tu? E io come faccio a rintracciarlo? Sono addormentato, via. Gianni, svegliati, gappa. Sale uno stile, un messaggio manda le oltre. Così si sveglia, a me lo partecipa anche lui, via. Non è giusto, si sta mangiando tutto Roberto. Sì, vabbè, sta addormentato, poveraccio. Sicuramente si è addormentato, se no già sarebbe entrato, non c'è problema. Non posso andare a fargli uno squillo adesso, così da buffo, se glielo faccio mica mi risponde. C'era nel cassetto il telefono, è spento tutto. Capito, Roberto? Quello che dice Natalino, che intende Natalino, è una cosa che praticamente scappa di neanche, no? Per avere quel rendimento con quella potenza. E si usa così, si usa con quel tipo di amplificatore, capito? Ma non è una novità. È una cosa che io so perché ho studiato su, perché sono anni che li faccio, ma a prescindere da questo, non è incredibile, capite Roberto? Non è incredibile, assolutissimamente. Per esempio, quello che io ho fatto a Natalino, già mi pare, 3-4 mesi, 4, una cosa del genere, da un livello sonoro, e tenerlo a tutto volume, non ti riesci, cioè non ti riesci perché poi, io sto parlando di un buon suono però, non ti riesci, non ha un basso che punta la casa, come vorrebbe Natalino, sono molto piccoli, perché non dice che deve distruggere un po', ma è un'altra cosa questo. Però avere un buon livello con un finalino così è pure una soddisfazione, capisci? Roberto, quello che ti voglio dire. Sì, sì, no, infatti ti ricordo il discorso dell'altro giorno. È inutile, cioè tu devi ascoltare ogni strumento col volume suo naturale, la chitarra col volume, il pianoforte col volume, è inutile che tu mi spari una chitarra che ti fa vibrare lo stomaco, cioè non è un volume naturale, cioè la vera verità devi rispettare le intensità sonore di ogni strumento. Esatto, ma è difficile da raggiungere. Allora, c'è ti sento, c'è lo creo, quello è, un controfase parallelo, gli dà corrente, gli dà una corrente, perché molti, ecco, questo volevo parlare proprio, non sanno, perché lo fa più in corrente, perché si fa muovere la membrana del cono, è la corrente che incita negli altoparlanti, che circola negli altoparlanti, è quella, capisci? Non è solo la tensione, quindi la corrente. Ecco, si pilota più in corrente, questi sono finali, quelli che dicono, che oltre in tensione li pilotano anche bene in corrente. E poi un altro fattore molto, molto importante da non considerare e da non metterci su questi usi, è il fattore di smorzamento, che è quello che quando il cono va indietro da un buon amplificatore non continua a vibrare, viene bloccato, quando va avanti viene bloccato in quel punto, poi il cono deve ridurre quella vibrazione, cioè deve ridurre quell'impulso di questo, non un'ulteriore vibrazione che sposta il suono. Quindi il fattore di smorzamento in valvolare è bassissimo, però è lo controlla il cono, specialmente quando non ci sono i filtri che vedono direttamente il cono dell'altro parlante, capisci? Dopo, questa è una cosa che l'esempio molti non sa. Sì, ma il fattore di spostamento qualcuno lo migliora aumentando l'impedenza dell'altoparlante, infatti diventati di un certo livello, come compromesso, anziché andare con 8 ohm vanno a 16 ohm di impedenza, proprio per ridurlo. Sì, ma quando vai a 16 ohm che non ha più fatto la transistor si chiede. Allora la sua dinamica inizia a farsi la cacca nei pantaloni, allora bisogna chiudere i pantaloni sotto perché si sente la fuga, capisci? Ecco quello che stavo dicendo, quindi ci è arrivato solo solo. Chi ci ha portato tranquillamente, a dispetto di quelli che dicono che hanno finali da 304 per me, come nel tuo caso. Scappano i 16 uomo che voglio vedere dove va. Sì, vabbè, ma è vero anche al contrario comunque. Cioè io un amplificatore di un certo livello a transito su carichi di 2 ohm lo faccio lavorare. Una valvola a 2 ohm non so se viene bene a lavorare. Ma sì, adesso basta fare da solo, ma per giusto lavora anche a 1 ohm. No, ma non è così, non è capito. Cosa ti devi ridurre? Ma quello di smontamento, te l'ho detto, te l'ho detto, è quello che serve per l'icono, quando vai in avanti, cioè comprimo o decomprimo le molecole, sono quegli altri punti di vibrazione, quindi smorca quelle vibrazioni che dovrebbero essere la cosa al fondo. Automaticamente, se tu non hai questa capacità da parte dell'amplificatore, perché basta una resistenza, basta anche un picco mal fatto, che ti vede? Che ti vede subito? Cioè, che te lo vede come un generatore di corrente. L'amplificatore ti vede, carica come generatore. Ma in tutte le occasioni succede. E ti allucinanti, perché certe elettrostatiche si lottate con i valvolari, picchiano? Vabbè, io il discorso del fatto del smoltamento l'avevo messo in progetto nel discorso dell'impianto che avevo nella vecchia macchina. Avevo messo la sezione bassa, infatti a 8 ohm proprio per questo discorso qua, cioè utilizzare un finale facendo lavorare a 4 ohm lo facevo lavorare a 8 ohm e un po' l'avevo migliorato per evitare quel rimbombo quando lavori in volumi molto grossi, soprattutto quando lavori in macchine che non hanno un baule, diciamo una macchina a 3 volumi che c'ha il portellone dietro, per evitare questo problema che mi stai dicendo tu, ho aumentato, utilizzato autopalanti da 8 ohm. Sì, però non è rimbombo, sono delle vibrazioni di tutti gli strumenti, sono delle vibrazioni micro e macro del cono dell'altoparlante, che molte volte non si riescono a smorzare, cioè, se non è che hai un amplificatore che ha un fattore di smorzamento altissimo, come il transito che è altissimo, tantissimo così come la distorsione stessa. Insomma, ogni cosa ha il processo della medaglia, non è che è difficile, perché non sto dicendo che l'amplificatore a valvole è l'amplificatore di Zeus o di cose di genere, no, assolutissimamente. No, l'amplificatore a valvole ha un suono che dà naturale, ha una certa potenza perché ha caratteristiche, produce molte più bene sul documento, se si direzionetti si produce correttamente, perché l'amplificatore transistor impatta, e se si impatta fa quel suono, tutti si intersettono, attraverso la ruota dello spazio, quello è il passo dell'amplificatore transistor. Sì, vabbè, diciamo, c'è da dire, il transistor c'ha delle cose in più, c'ha molte cose in meno, la valvola e viceversa, la valvola c'ha delle cose in più, c'ha un amplificatore ideale, non credo che si riuscirà mai a costruirlo. Ma guarda, per riuscire a costruire un amplificatore di sintesi, a valvola continuare a fare qualcosa, a meno così, non c'è, però non è che questa è una soluzione, non è che una potenza, ma se hai delle stesse la soluzione, così sto dal tempo. Anche perché questo è un tipo corrente, non è aspetta a fare contagiamento, non è aspetta a fare contagiamento, ma si sa, questo è una cosa molto interessante. Quanto è che fa? Questo è un'idea, perché forse la corrente si sarà anche nel fondo per l'eccitazione da tutti i lati, ma non parla anche ad una fascia. Quindi presente, anche la G2, adesso invece lo spreco sul calcio nella produzione dei ceti finali, se ti mangiano una marea di corrente per ottenere niente, quello non viene considerato. Allucinante, valvole che ti succhiano ampere e ampere di filamento, valvole che ti scappano come dei buoni. Allora la bellezza di un circuito a valvolo sarebbe un po' come quello che fa io per sé. Ti spiego perché no, perché voglio alzarmene grandi, se prendo le valvole mie sono fredde, ci mettiamo la nostra fronte tutti, è leggermente calda. Perché? Perché ha 0,158 di filamento. Quindi niente, 158 mila ampere. Ma che cos'è? È niente, non assorbono, cazzo di altissimo rendimento. Classe graffitate, capisci, sono piccolini, c'è un battimento di 1,4, copiati in parallelo hanno una buona corrente, una buona tensione. Ecco, quindi la distorsione non è più un certo livello, non si adattano più in un certo punto, mantengono i parametri costanti, non incendiano i trasformatori. L'uscita perché chiaramente, vabbè, a parte il tanker con tanker, però si mantengono su un certo livello. Quindi, che senso avrebbe prendersi un po' che la valvola? e per ascoltare il suono della valvola e avere uno spettacolo selvaggio della corrente, ma quello fare le cose a scimmia. Sì, infatti tu l'hai sovradimensionato, stai facendo lavorare tutto il circuito al minimo delle proprie possibilità in modo da evitare degli sprechi. Sì, allora non è che l'ho sovradimensionato, io l'ho dimensionato in modo giusto. Quindi se io ho, che ne so, 10 watt veramente, massimo ne devo consumare 13, 14, per cui rintraccia uno. Questa è una grande cosa, e molte persone non lo sanno. Ad esempio, la configurazione degli speaker di pilotaggio della sessione finale, cosa ne capisci uno se io vado a dire certe configurazioni? Ma no, non lo sanno che, e questo sa quanto è importante un amplificatore in finale. Ma lo sai quanto è importante il pilotaggio delle parole finali, più importante della stessa sessione finale. Lo sai che molti di un amplificatore a transistor se avrebbero un buon pilota come Dio comanda col giusto decadimento armonico, secondo me sarebbero critici, come critici li farà messi in voce. Ma tali e tali. Tutto il problema è tutto lo stadio di amplificazione, che poi se c'è sporcizia l'amplificato lo stadio finale ti amplifica sporcizia, se c'è un bel suono, una bella linearità, una pulizia di suono ti amplifica quello lì, cioè più disturbo c'hai più amplifichi. Ma guarda, non è solamente un disturbo che amplifichi, il pilotaggio di un sistema finale, specialmente sulle valvole di una fase finale, sullo speaker, sull'esecutore di fase, è una cosa da tenere veramente in considerazione. Praticamente solo quello già è uno stadio finale, deve essere robusto, solido, un non-telefire, una commutazione particolare, dipende cosa uno vuole ottenere. Ecco. Tutto ciò così, infatti non serve a niente parlare di potenza con le valvole, assolutamente, io a Natalino glielo ho detto, io sapevo, io so l'effetto che fa, un finalino così sentirlo a quei livelli, ma lo so, dopo il finalino lo so, ma hanno effetto, perché? Perché sì, ma se tu prendi, gli hai fatto sentire una radio che ha 0700, che ha neanche un quarto, non ci puoi stare dentro casa, è monofonica. Tutto dipende poi dal dato parlante, naturalmente, dall'efficienza. Se c'hai un centinaio di decibel con un watt te ne butta la casa. Ma infatti non te ne fai niente. Quindi che si ritorna sempre allo stesso discorso. Perché moltissime cose sulle sessioni di ascolto sono fatte con finali da 2 watt? Ecco, il problema è questo. Perché non prendono un finale da 30 watt, ma lo mettono lì e ammazzano a tutti? Infatti, diciamo, ci sono tante cose da vedere. Purtroppo, quando uno ascolta si rende conto, se sente in giro le cose, molte volte, mira, adesso stiamo parlando di argomenti con una persona competente, io molte volte sto zitto, non mi intrometto perché sento tante di quelle fesserie, non per dire che, che non è ricca, perché ne dirò anche io, però sento tante fesserie qua in radio, anche discorsi, molte volte vai in negozi di questi che si sentono venditori di apparecchi alta fedeltà, non sanno manco cosa vuol dire l'alta fedeltà, dice prendi questo perché questo c'ha quello, è solo questione di mercato, però la vera alta fedeltà pochissima gente l'ha ascoltata. Guarda, non voglio essere cattivo, ma dici che sono un branco di cretini e poco. Poi vendono capi a pezzi stratosferici, uovi magici, pozioni volte alla salute dell'amplificatore, morsetti che fanno passare il suono, immagini di tutte le maniere. Quando fe, la stessa Marlon, tanti anni fa, quando fece il Model 9, presentò un amplificatore con una piattina di quella da impianto elettrico intrecciata, bene, una grossa piattina, il taglio di terapia, la presentò così. Ma l'ho presentato via forza, i capi di bassa frequenza, cioè i capi che portano il segnale, il segnale di basso livello all'ingresso del finale, va bene anche un Resi 58, è quello che ha le meno capacità parassita di questa terra, quello che ha meno risonanza di questa terra, è un cavo stupendo. Le VT 58 e molti non lo usano perché è antiestetico, perché non c'è scritto gentleman, perché non c'è scritto di Pickman, capisci, tutte queste cose qui, la gente si passa, esaurisce, compra quei capi, 100 euro al metro, mi sono comprati di termine su due, nessuno ne sa niente. Io allora rispondo sempre, nella macchina di idraulico c'è scritto Superman. E adesso c'era qualcuno sotto, avanti che vuole entrare. Forse qualcuno forse ha fatto un segnalino per farsi vedere, rendere presente, non lo so. Vabbè, c'è ragione anche per i cavalieri, solo questione pubblicitaria, ne ho esperienza anche personali. Diciamo non ho comprato, me ne hanno regalati certi tipi di cavi con connettori placcati in oro, poi alla fine sono dimostrati troppo rigidi, si sono smaccati, lì parliamo di cavi RCA, con l'ingresso RCA e mi hanno creato più problemi degli altri cavi economici. Vediamo un po', c'è qualcuno che volontà? Perché fare questi discorsi in radio è difficile, perché ci sono persone che si offendono, ci sono persone che ti prendono per presuntuoso, ci sono persone che ti prendono per antifatto, e io ne ho visto già, forse perché sei entrato in verità, però ti posso garantire una cosa, che la verità è bella, io sono sempre a ricerca della verità, specialmente nel settore audio. Ho bugiardato i venditori che sono un'idea, ho preso i candidi di quelle persone che credevano di farla canta, si è camminato estremamente, quindi fare il terrore di certe ditte, però questo non detecta il fatto che io non sia onesto, cioè io sono onesto in quello che dico, in quello che faccio, senza ombra di dubbio. Forse per quello che non diventerò mai ricco, forse per quello, però che mi posso lasciare. Ed è sicuro, io non voglio e non vorrò mai sentire questo genere di personaggi bugiardi che vanno a vendere al prossimo Mondetta, punto. Vengono al prossimo Mondetta e non li voglio manco vedere, perché poi raccontano cose allucinanti, questo genere. Penso che ne sappia qualcosa. Sì, adesso stiamo parlando di alta fredda. Se vai in un negozio di televisori, l'altro giorno, il nostro fratello, l'altro giorno, qualche mese fa, comprato il televisore, c'erano tutti i marchi, Sony, Panasonic, LG, Sharp, eccetera, eccetera. No, non comprare Sony per questo. Cioè, lì sono questioni già, partono già col discorso del mercato. Devi lanciare quel prodotto lì e per forza devi vendere quello. Smerdando gli altri tipi di prodotti che sono validi quanto quello, se non pure più di quello. Guarda, ecco, allora, sì, io Felix la conosco come leader del TV, Felix è una vita che ha fatto pressione, ma anche Sony, chiaramente non si lascia mettere sotto i piedi, in America è famosa la Sony, cosa incredibile, ma vera, famosa da anni, però sono qui che sono sottovalutato, la smettare, il dire della pizza non viene niente a fare qua. Non c'è bisogno di denigrare, criticare sì, ma denigrare una vita come la vita, assolutamente, come certi che ne sento. Come io non potrò mai denigrare Sol Marant e i suoi prodotti, assolutissimamente, non prenderò mai. Cioè, tanto di cartello, ma io quando vedo una presentazione Marant, cioè, ne è plato le sue capacità di potenza, di spinta, di dinamica, anche se fatto con un semplice operazionale, perché comunque c'è dietro un progetto, da persone competenti, da persone che sono a un certo livello. Poi, il fatto che pensi pubblico, quando tu vai in giro ti dici, ma c'è questa possibilità, con questa possibilità, ma mi sono lasciato di carte con lo stesso. È una decisione di pubblico, di pubblico ignorante, che può pagare. Non so se ti d'accordo con me. Sì, no, ma ti mettono in idea a una persona incompetente, come nel caso di mio fratello che è andato a comprare un televisore al plasma, gli hanno messo delle idee di cose, cioè volevano buttare a venderli per forza il Panasonic, senza niente togliere a Panasonic, ultimi televisori, e non ho niente da dire a Panasonic, però io non posso dire che un Sony non serve e un Philips non serve confrontato al Panasonic, cioè hanno puntato direttamente sul Panasonic e hanno fatto vedere quei colori esaltati, tutto curato bene la regolazione, mentre dice guarda, te ne accorgi che il Philips è un po' opaco, il Sony c'ha troppo rosso, se tu mi perdi tutte le qualità del televisore regolando le regolazioni, cioè sfasando le regolazioni, alla fine uno ha anche un occhio che non è coso, come si chiama, competente, dice no, si vede meglio questo. Sì, andiamo un pochino avanti, vuoi entrare? Nessuno te lo fa intervento. Natalino, ci sei sempre? Sì, signore, certo che ci sono. È a Spittina, dove Iuri. Ma noi vogliamo fare i soldi. Inventiamo un cavo e lo vediamo. Invece di 700 va a 1.000 euro al metro. E vedrai che ce lo comprano. Io lo farei, ma per impiccare certi rivenditori, vedrai che lo comprano i parenti, quelli che hanno preso le fregature di 2-3 mila euro, certo che lo comprano, capito? Con l'ingrassatore automatico, come lo leghi al collo, come lo fai a cappio, lo leghi al collo del rivenditore, ti ingrassa automaticamente lo troppo. Quello sarebbe il capo ideale, Natalino. Quindi aspetta che adesso smonta Natalino. Ad esempio, no? Le casse a tutti tutte le linee come quelle che sto facendo a Natalino, il dicono, lo sai, lo sento subito delle colorazioni, che sono più o meno evidenti a seconda del tipo di tonalità, del tipo di suono, del tipo anche di apparecchio che colleghi. Ok? Quindi, vedi, il musicone, ad esempio, no? Il crossover non è presente alla porta, ma è entrato dalla finestra, perché il musicone rappresenta un modo elettromeccanico come filtro. Quindi a questo punto, siccome le trasmissioni gioca sempre sui parametri di ascolto, anche lì ha delle colorazioni, non è scelto. Certo, non esiste, lo stesso discorso non esiste mai, l'altoparlante ideale ci avrà sempre qualche carenza. Che componente è stato utilizzato? Ciale, metto riprendente da fusare, cosa c'ha? Ciale mi sarà da... Sì, allora io principalmente molto ciale, il mio filter è americano qua, no? È un filter molto particolare, quindi è molto sempre ciale perché ho trovato ultime configurazioni e quindi mi trovo molto bene, anche perché è un prodotto italiano validissimo anche all'estero. Ne parlano le migliori riviste audio e quindi per questo io mi sono sempre affermato, non solo perché ne parlano loro, perché poi Ciare ha sempre fatto una buona ricerca nel campo audio e quindi merita di essere trattato, quindi non è paragonabile a un prodotto Fiat. Guarda, diciamo, qualità prezzo sono ottimi prodotti, perché hanno tolto grosse fette di mercato quello che poteva essere la RCF. Prima la RCF era componentistica, parliamo di altoparlanti Suzy, era il numero uno in Italia, poi ha iniziato a alzare un po' troppo i prezzi e ha preso un sacco di quota di mercato, poi è stata a lanciare a livello industriale, ha fatto degli ottimi prodotti a buon prezzo. No, buono, resta buono, lascia stare le RCF, lo so. L'RCF è un altoparlante che va rispettato, vedi, lo sbaglio che si fa. L'RCF te lo fa pagare di più perché ti va il doppio. Io adesso non è che sto dicendo che l'altoparlante RCF comporta una magia. No, l'altoparlante RCF, ad esempio, ti faccio un esempio. Il Model 8 dell'RCF, che sono casse da piano bar, ecco, montano un altoparlante che lasciare stesso, te lo va a metà prezzo, ci senti, ci sta in quella casa acustica, ci sta, però non c'è paragone a quello suo della RCF, l'originale, ma non c'è paragone a livello costruttivo su forti, cestello, quello della Carella Merino, quello della RCF in lega, quindi più rigido, meno isolante, tutto questo. Poi, un'altra cosa ancora, stesso magnifico, molto più controllato e molto più alto, mentre quello d'acciaio più basso, e con un carta, in un certo modo quello d'acciaio dura lo stesso, è paragonabile al RCF. Allora, ricordati una cosa, il commerciante solitamente cerca di imbrogliarsi, ma regalare non ti regala niente. Sì, no, io già riconosco la RCF, era un ottimo altoparlante, aveva un bellissimo, un larga banda avevo, dalla RCF, un 26 mi sembra che era, c'era un suono spettacolare, per essere un larga banda suonava che era una meraviglia. Sì, no, ma io appunto, no, perché scelgo questo prodotto, scelgo il prodotto Ciare, prima di tutto perché è italiano, ma non perché l'italiano mi sta fregando, perché ha i suoi limiti, e quindi lo scelgo per questo. Ecco che appunto Natalino avendo sentito quelle casse acustiche, io mi sto facendo una riproduzione simile, non uguale, con Natalino tocca i 110-112 di vini fare che so, con preparate 4 ohm, che hanno un ribattaggio tutto per permettere a quel piccolo montecciarselo di poterle pilotare in modo dinamico superiore al primizio. Non bisogna sederli con alcuni pochini di robe, tutto quanto lì. Niente, io sto facendo il troppo, hanno loro problemi, il piccolo comprate delle colorazioni, la seconda persona non sono gradite, dipende, poi il piccolo lo sappiamo, è un altro parlante che bisogna saperlo trattare come lo sto facendo io, quindi sto facendo una cassa, un basso di cercare cassa con il proprio, devo fare in modo che il basso sia bello presente, il basso del piccolo, con quel cono così in carta trattato, liquido, che ha 2-3 ondulazioni, un ultimo smorzamento, un ultimo passo, e non c'è di passo a posto, capito? Questo c'è tutto un studio, no? E quindi anche era carino, ma dice, ma Fabio, è chiaro che quello non ci crede, non crede, non crede perché? Ma perché lo si già? Ma chi è che ammazza nessuno? In effetti non ammazza nessuno. Si comporta nel ricomporre il suono come dall'origine con il suono dell'originale, in effetti. Un suono, e più fanno di un potente cattivo suono, tu prova a prendere una buona chitarra e un violino, mi fa sentire pure, mi fa sentire di più, se non potrebbe avere Francisco, non sono più, la chitarra e il violino non hanno più quell'intensità, perché si è mangiato un po' quello che è la realtà del suono. Sì, sicuramente così. E che diametro c'ha questo altoparlante? È un 25, non ricordo il livello di Gauss, ma è un 50 nominali, Quelli sono abbastanza grandi, saranno almeno una cinquantina centimetri di altezza con le casse. Di volume, quanti litri? Una trentina di litri? No, sono, allora, sono 50 litri fa. La finestra del piano di accordo è 143 mm qua, è una bella finestra, non si crede che sono piccolini. Ma tu lo fai come si accelini con un tubo li fai, l'immocatura o gliela metti con rettangolare, come li fai i calcoli tu? Il tubo rettangolare? No, assolutamente, sono accordati a finestra, c'è una finestra sulla parte superiore e sono vicinissimo alla finestra. Quindi è una cassa, come si chiama, caricata internamente questa, non è il classico reflex chiuso, a cassa chiusa col tubo d'accordo. Tubo d'accordo? No, assolutamente, si può anche fare così, però bisogna ovviare molti convenienti dopo, no, assolutamente. Però vedi, puoi insegnare all'effizio per una cassa. Quindi è una specie di labirinto, cioè sta utilizzando un sistema tipo labirinto tutto. Esatto, però l'aria non deve, la turbolenza dell'aria non si deve sentire all'esterno, non deve, il soffio non deve essere percepito, perché non si deve sentire solo il fattore basso, ed è per questo che il cono si trova quasi all'altezza, cioè si trova quasi in vista dalla finestra di accordo, dalla porta inferiore della finestra di accordo. È un'apertura calibrata ovviamente, e quindi scende anche, mi pare, l'arrivata è a una trentina, il picco più basso, e poi risponde fino a, mi pare, sono circa 15 kg, molto bene, da sola. Ah, forse ce l'ho preso, ma così è un progetto ciare, quello sugli opuscoli da lasciare. Quello del lasciare è troppo basso, quello del lasciare purtroppo qualcuno l'ha realizzato e è risultato accordato. Troppo basso, risultato accordato. Quello lì aveva problemi di turbolenza. In effetti io l'ho alzato, ho modificato totalmente il ciclo del progetto. Allora, quello dell'acciaio l'ha fatto un amico mio, lo stesso l'ha modificato, però con componenti più grandi, l'ha fatto a quattro vie l'impianto, con Super Twitter, e c'ha un suono della bomba, però l'ho provato con un amplificatorino mio, non lo so, forse problemi di impedenza, non lo so, di qualcosa, non andava bene. No, ma cosa mi leggi? Ma come non ci aggiungono su Twitter così? Si può aggiungere? No, allora, questa qui però non comporta solo la finestra di accordo e la funzione. Questa qui ha un taglio interno che è diverso. Io non posso accordare una cassa a finestra così tenendo, come hanno fatto loro il piano di accordo troppo alto, 55, quindi sembra che 43. E cioè è tutto diverso, la bocca di uscita è tutta completamente diversa, non c'è niente che non si possa fare o modificare, ma scusate, non è che tu puoi fare una cassa e tu la butti. Purtroppo molte volte ci vanno fatte delle prove, devi provare e riprovare, se non hai le strumentazioni adatte per farlo. La strumentazione più grande lo vedo, te l'ho già spiegato, perché poi che tu devi fare una legge d'accordo con quello più vero, ti dice, vabbè, 120 kg a un metro di distanza, e quando tu mi porta già, non c'è mai, non c'è niente, non c'entra niente, non me ne importa nulla, posso tenere tutte le coscienze di questo mondo, io quindi sono sempre quello, e poi sopra c'è un'altra cassa, cioè quelle sono casse sole, questa è accompagnata da una seconda camera, dove c'è un impasto con un punter, capito? Ma il punter però non è il classico punter configurato, diretto, collegato diretto, e lo vede direttamente l'amplificatore. No, lo vede sul ramo di due altoparlanti in serie, quello è bello. Vabbè, bisogna sentire, dai, utile. Ci sono diverse concezioni, filosofie, diciamo, di costruzione di casa, ce ne sono migliaia di idee. Diciamo, l'unica cosa che ti può dire è come funziona l'orecchio, hai detto bene tu. La persona è convinta, ma alla fine è difficile. Un sub con una cassa del suo volume eccetera eccetera ed era un abisso di suono. Sì, vedi, anche il discorso del sub, il sub è una cosa sbagliata, il sub non esisteva. Allora, adesso ti dico una cosa, il condotto d'accordo, ma tu pensi che sia nato per l'Alfai, ma chi l'ha detto perché è nato per l'Alfai? Lo sai perché chi è che ha fatto il condotto d'accordo? Io dico quando c'è problemi di spazio in macchina, normalmente un altoparlante in macchina lavora male perché ci sono volumi, non sono standard, non riesce a calcolare il volume, e a volte non c'è un tipo di altoparlante che riesce a lavorare in cassa aperta, diciamo in aria, ci sono grossi problemi, allora a quel punto un compromesso è utilizzare una cassa chiusa e il sistema per non avere grossi ingombri e metterli, come si chiama, questo sistema che ha adottato con l'Atalino, che non l'abbiamo concluso però. Sì, però bisogna capire una cosa, che il donatore di Elmo, lui dice va Von Elmo, o Von Elmo con una retrotesa, era un fisico che quando la Italia è nata, lui era già morto, cioè, senza più, non c'entra niente. Praticamente lui scoprì che le molecole all'interno di questo tubo subivano un acceleratore, cioè di un'accelerazione a certe frequenze. Quindi il risultato di Elmo non si chiama Elmo, una cosa così, forse non si può proprio. Successivamente pure è stato usato così, a finestra, labirinto, raggio, pure come la Jotte. Però non c'entra niente, vedi, neanche quello fa parte della Sky. Sono tutti palliativi per riprodurre ciò, e sia per il tempo, un suono non verrà mai riprodotto da nessun sistema come dall'origine. Sì, quello è matematico, non c'è problema. Però è uno dei sistemi più economici e riesce a darti un senso di basso. Tu mi dirai non ci avrai, ci avrai una distorsione, un ritardo, eccetera, eccetera. Non ci avrai la profondità, o forse in certi casi ce l'hai troppo la profondità. Però è l'unico sistema per avere un compromesso, per sentire il basso in certi casi, in certi tipi di situazioni. A meno che non c'hai degli equalizzatori o dei crossover particolari che ti tagliano certi tipi di frequenze. Sì, ma sono perfettamente d'accordo con te. Ad esempio, in macchina con un impianto che era a prevalenza anteriore, consumo posteriore, in cassa armonica chiusa, portata a finestra sempre, l'accordo sempre a finestra, e suonava molto bene. Io non è che sto dicendo che non si deve fare, non ho detto che, perché parlando di critiche di stessi, si parlò così, in forma tecnica, non si può parlare in forma normale. In forma normale, se parla una cosa che insomma ti introduce un buco, basta. Però non è che quello sia accettabile, il sub non è accettabile, non lo accetto, io non lo accetto mai, a prescindere dalle casse che faccio, non si vuole il sub assolutamente, ma il sub non esiste, non c'è perché non si vuole, però hai, come hai detto tu, hai lo spazio, hai la possibilità, hai la cassa acustica, ecco perché io non si pensa di mai la sua. Hai ragione, perché lì c'è quell'inconveniente, perché bisogna ricreare un ambiente che si assomigli in uno spazio contenuto. Ecco che sarebbe ingiusto dire che Roberto non ha ragione, è giusto, come può avere ragione? Chi se dice, il mio apparecchio l'ho comprato e va bene, ma certo, ci sono degli applicatori che ascoltati con certe case vanno diventati iscritti. E sono da accettare anche quelli perché hanno poco ingombro, perché sono lieti, perché sono versatili, ad esempio per così meno, c'è il classificatore che l'ha fatto, è un sacco di comandi bassi e alti, poi allo scambio per ogni canale, masse separate, finali di uscita sono due monofonici che hanno una diatonia o 800 di fine, non lo so, per questo che non esiste un canale con l'altro, sono completamente separati anche elettricamente, un radino, elettricamente si intende in modo particolare, ovviamente. Quindi, arrivato a questo punto, poi che tu volumi, devi alzare il volume destro sinistro, devi alzare il volume del 3, cazzo! Capo, ma questo amplificatore che stai facendo tu, c'ha anche controllo di tono? Sì, io trovo un piccolino, guarda, ha il volume e un controllino di tono così, con due valvoline, che erogheranno, boh, 4 watt l'una, ma il non è una cosa che costa la stessa cosa, pure lo sto regalando proprio perché voglio che saggi la qualità della lampola. Sì, ok, vabbè, per oggi mi sa, abbiamo parlato, almeno a parte mia, ci sono stato già anche un pochettino, c'ho il cronometro qua partito del ricevitore, non ho parlato di continuo, ma siamo più di 2 ore e 50, almeno è acceso un apparecchio da 2 ore e 51 minuti, per me mi basta e ne avanza, diciamo se vuoi rimanere natalino, buon proseguimento per tutti e due, sono a parte mia, QRT, ti saluto, buona giornata per domani, Gianni, grazie delle cose, del bel discorso che hai fatto. Non lo so se la penso in questi casi, lo so, ce n'è qualcuno che potrà buttare maledizione, ma la forse. Di questi discorsi neanche nelle bande radioamatoriali si sentono. Li avrebbero voluti fare loro questi discorsi. Ma in banda radioamatoriale cosa si può sentire? Si può sentire il fischio che ha costruito il lineare scoppiato da una testa di lupo che l'ha riprodotto e rimesso dentro. Ah, 1500 watt, 3CX, 4CX, trasformatori sprecassando corrente, buttando dentro. Vai il codiscio! Quell'altro che accorda l'antenna 1-1 è anche un buon carico fittizio a 1-1, da non prendere, cioè da prendere in considerazione. E tutti lì sul tetto che passano la magistrata della giustizia a accordare antenne. Vabbè, comunque questi sono dei discorsi veramente interessanti. Vabbè, si è fatto tardi, là, ti saluto già, al limite ci sentiamo domani, che se no qua andiamo a Ravengo, non c'è, domani me ne devo alzare presto, devo andare a fare quella lavanda lì, e poi devo essere qui perché alle 11:30 viene una persona per mia madre, quindi è un macello, domani sarò impegnatissimo. Può essere anche una forza attiva, non lo so, un operatore se la fatti forza ascoltare, quelle cose sì vere, sì finte, sì teoriche, matematiche, le più due. Però magari preferiscono parlare di cambi di gruppo, come non so, della moto che si scaccia, della bicicletta che non è caduta faccia a terra, era un fatto all'ospedale, la mamma si dice lo bastone, ma non lo so, ci sono sempre argomenti più importanti di questo, quindi ti saluto e ti piace. Cambi bene, alle prossime punti. Ciao Roberto, e anche gli eventuali ascoltori, io me ne faccio in QRT alle prossime. Ciao Natale, ci sentiamo. Io provo a chiamare ma non credo di rispondere. Non è possibile macchinare questa cosa. E capisco alcuni nostri. Alla giotte, tra gli sintetici dominari li hanno tutti trincato da fuori da loro. Avanti l'Ecco, chi è? Avanti l'amico Fizio Ecco, anzi. Avanti. chiede di entrare, un migliore due anni, buonasera. Non c'è scorso. Avanti. Avanti Greco. Eccolo, buonasera, vai, un Almerio qua, il barra pesante, direzione Sassari, Alfa. Chi sei? Almerio, no. Sassari, Alfa Almerio, buonasera Giovanni. Stavo cercando di capire come ti sentivo con lei, così vediamo un po' chi è, per fare questa stazione fissa. Ok. Vediamo un po', al meglio, vediamo un po', come affronti? Dai, ecco, va bene, bene, quella è la radio, quella pulita, muore, ovviamente mi vedo un po' male guardare lo switcher, provo a fare un passaggino. Sì, va bene, no, c'è problema. Ora, ora, vediamo un po'. Io ho 5, non c'è problema, sto trasmettendo da una collinetta, sono dal primo. Allora, sono qua, guarda, è entrata, svincolo via l'Italia, svincolo qua via l'Italia. Ah, io sapevo che già, praticamente viene tre Sassari, e già. Da Gordia, da Gordissimo, al meglio, che nome chiama? Ma il nome CD o il suo nome personale? Almirio, proprio così. Ah, parlo già proprio. Ma non ho sentito proprio, ma tu sei proprio sardo come vittima? Ma io lo so. Almirio. Praticamente il sardo dovrebbe essere tra me e lui. Beh, il patrono di Garda, San Palmirio. Sì, tra me e lui, sono tra me e lui. Come ha sempre detto? Come ha sempre detto? Hai già cercato di riferimento. Ma stai entrando a Sassari per capire Sassari oppure stai passando per servizio? No, io abito a Sosso, capito? Ah, quindi sei qui per consegne? Ma faccio il camionista, parto qua avanti, te li fa la sera? No, no, ma dico, ma stasera, stai andando a Sassari per consegne? No, sgancio il rimorchio e me ne scendo a fare a casa. Ah, ecco, quindi hai finito? No, pagavo a Roger. Non ho capito. Ho capito. No, ma sono curioso, ma è tu il sistema una cosa, ma è stato mai intercontinentale così? No, negativo. Ah no, quindi viaggi solo in Sardegna, sì. Una cosa, ma ci sono dei trasportatori che saltano dalla Sardegna e imbarcano così, poi vanno verso l'America, esiste questa gente qua? Ma che io sappia no, a livello Spagna, Francia, Germania, Olanda, tutta questa zona diciamo dell'Europa, sì, ma arrivare direttamente in America no, perché quei viaggi lì solitamente vanno tutto tramite container, capito? Mettono tutto sui container e viaggiano così. E quindi vengono trasportati dai treni? Quello dico. O in nave, poi su linea ferroviaria, oppure in nave quando sbarcano nei porti, vengono agganciati da altri rimorchi, da altri camion, e tutto su container comunque. Sì. No, ma quello che mi incuriosiva di più, no? Siccome sempre sento parlare tra dell'America, sui camion lucidi, ecco, su questi tantissimi camion lucidi al 100%, ecco, no, ma volevo sapere appunto se anche qui c'è quella tradizione, lucidare il camion a quel punto. Chi più chi meno, c'è chi lo fa un po' di più, c'è chi lo fa un po' di meno, solo che gli americani sono proprio battiti, capito, proprio vivono per il camion, dai. Scusa se ti faccio una domanda un po' azzardata, ma come guadagno? Fate molto bene, vero? Beh, rispetto alle ore che fai non sei mai pagato, però come stipendio diciamo che non ci possiamo lamentare, dai. No, perché guarda, è una cosa che io sono una persona un po' intrigante, no? Come si dice, un po' anche maleducato, qualche volta, anche ineducato, scusami, un po' ineducato. Dimmi solo una cosa, non voglio sapere dove si stringe, ma toccate le 3.000 euro almeno. No, noi qua in Sardegna no, noi qua in Sardegna a parte ci sono aziende che ritiri 1.300 euro, non ti pensare, ce ne sono quelle che ti danno 1.500, dove siamo noi arrivi entro le 1.800-1.900, nella scuderia dove sono io. Qualche d'uno riesce a ritirare più di 2.000 euro, ma 3.000 nessuno qua. No, perché lo sai perché mi incuriosisce, no? Siccome vabbè io sono un buon osservatore, già curioso di natura, non è che poi non me ne importa, perché il discorso è tra uno e il suo, ecco, non sono mai stato uno che ha avuto mani di testa. Però no, in curiosità, ma voglio sapere, ma quanti camioni di cui ne conosco qualcuno, no? Ecco, ma che fanno queste cose belle, questi camion, questi. Ma i soldi ci sono, cavolo. Sei positivo, giustamente ritiri uno stipendio superiore a qualsiasi operaio, senza una di dubbio, capito? Però non è mai rapportato il sacrificio che tu fai. Sì, ma fondamentalmente diciamo che sul classa lo stipendio di un semplice impiegato. Ripeto, ci sono adesso alcuni che stanno ritirando in certe scuderie che ritirano 1.300-1.500 euro. Dico, dove sono io non mi posso lamentare, c'è qualcuno che ritira anche più di me. Ci sono gente che fa all'estero che ritira i 3.000, li passa abbondantemente, capito? Sì. Non so che appunto hanno fatto fortuna, ma hanno delle belle case, due figli, belle macchine, insomma, si tengono bene. Quindi è evidente che danno le fila. Sì, positivo. Ma sì, solo questo, poi te l'ho detto, ognuno di suo, per carità. No, non è mai curioso, io sinceramente stavo pensando che prendessero un minimo 4.000 euro. Se ti dovessero pagare tutte le ore che fai, io sono in giro da stamattina alle 7. Adesso guardo il contachilometri e ho fatto 746 km oggi. Sono le 11 e un quarto di notte e ancora devo rientrare a casa. 746 km. Ecco, praticamente sei andato e tornato circa due volte a Cagliari. Allora, io sono partito, Porto Torres, primo scarico a Muros, secondo a Nuoro, terzo Ristano, quarto a Cagliari ha agganciato il rimorchio carico e è andato a Olbia, da Olbia ha agganciato, un altro e è venuto qua a Sassari. Porca miseria, certo che sono gentili. Un'altra curiosità, questa volta semplicissima, ma nella guida, questo parlo come struttura, di mezzo, eccetera, voi non avete paura, cioè, oppure avete paura e guidate preferenza, cioè, non guidate preferenziale, cioè preferenza, no, ma dico, fate in modo che non esista questa paura. Che paura, spiegati, perché che paura devi avere? No, non ci siamo capiti. La grandezza del mezzo. Sembra una volta che ci fai l'occhio, è come tu la prima volta che ti siedi nella macchina, no? A 18 anni che hai appena preso la macchina, no? Mi sembra questa cosa di grande che non riesci a passare nei posti. Poi una volta che ci fai l'occhio, guidi normalmente, come quando vai in bicicletta, no? La prima volta che vai in bicicletta cosa fai? Tenteggio un attimino, ma è così cambia, no? I primi giorni sei tutto timido e cosa, poi mano a mano che va, ci prendi la mano, di queste chiese e poi c'è lì una cosa che mi ho portato e che me l'ho portato. No, appunto quello che si sapeva, si creavano delle cose fatte nella guida, cioè quello che appunto diventa un po'. Un po' come imparare ad andare in bicicletta, poi non perdi più l'abitudine. Prendiamolo come abitudine, dai. Sì. No, mi fa piacere. Mi fa piacere che voi siete a capo di molte cose, eh. Non ci siete voi all'estate, non dica niente. È positivo, basta guardare in quelle giornate di sciopero i disagi che ci stavano creando. Ci vedo un attimino di mezzo che io lancio il rimorchio qua. Sai, io provo a chiamare fortunato, che appunto tu magari quando arrivi tu a sotto ti salì. Vediamo un po', c'è qualcun altro? Basta di fortunato di chiedere di usare. Avanti di volontare. Avanti, avanti la portante. Non sto facendo il radio però. Che il senso di questo che sto proprio disturbando sta a parlare? Capite? A te sta con la fede a staccare? Un disastro di mani di minore, io sì. sinceramente. Mi pergoglierei alle 11 di notte a fare Fernando. Mamma mia, come siete ridotti male. Come siete ridotti male. Povera gente. Oh Dio. Ma, contenti voi. Contenti tu. Io mi auguro che tu nella vita capisca qualcosa, non sto dicendo che ti sia un Dio, ma che capisca qualcosa. E questa la presenza di ignoranza, però chi nasce tondo muore quadro. Mai, mai sia questo. E io, povera gente, mi vergognerei, no? Principalmente anche per quelli che ci stanno aspettando di Roma. Mi vergognerei, sinceramente, mi vergognerei. Tu sai, tu continua a starmi a chiaro tanto sempre qui. Però, avanti, fammi. Ero qua, aspetta, due minuti che vuoi cancio altro. E io sì, aspetta. Comunque, ma adesso che era pesante la cosa. Positivo. Positivo. Purtroppo il giorno che ci blocca il trasporto è... sono guai per tutti, eh? Ma infatti io sono stato verso lì, te l'ho vista. Perché facilmente prospettabile che si verifichi una cosa del genere. Facilmente prospettabile. Visto che c'è anche l'importanza delle consegne, merce deferibile, non deferibile, a lungo raggio, a corto raggio. Beh. Sì, per ottenere i propri diritti, purtroppo siamo costretti a fare queste cose. Sì, allora, siccome non capiscono l'importanza e la fatica che c'è nel vostro lavoro, perché io lo vedo un po' massacrante, era di un film, una persona in questo disegno mi disintegra un altro mese due saluti di migliaia di migliaia di euro, si aspettano che potrebbe arrestare, ma gli altri conducenti dopo che uno o un mese di quella maniera ci sono strade. Insomma, ma resi problemi, via. Io capisco le vostre esigenze e le situazioni, però c'è pure un discorso da fare, più di tutti gli altri, più di come una famiglia, più di andare avanti di una città, così non è che può disporre un sacco di denaro, di fare tutte le vite come no. Positivo, basta vedere l'altro il prezzo del gasolio è salito alle stelle e più sale il prezzo del gasolio e più sale il prezzo del trasporto, perché è una cosa che va di pari passo, Sì, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Purtroppo, speriamo che questo governo dia una sistematina al più presto, se no la cosa è alquanto critica. Ma guarda, che facciano quello che vogliono, tanto hanno sempre fatto quello che vogliono, faranno sempre quello che pensano e chi li ferma? Chi li ferma? Troppo, è vero, mio padre è della classe del 21 e lo fanno per ripetere la stessa frase, si stava meglio quando si stava peggio. Beh, fondamentalmente devo dire che il Silvio Berlusconi è una grande persona, sotto molti aspetti, ecco, non so altro, io questo che posso garantire, ognuno ha il suo punto di vista politico, ma fondamentalmente la sinistra ha scaricato addosso una marea di tasse sul discorso che Berlusconi aveva fatto 5 anni di vuoto, beh, è troppo facile così, però vedi come stanno andando a finire il disegno. Positivo, positivo. Gianni, che dirti, dai, adesso devo manovrare qua per lasciarmi questo rimorchio e fra un po' chiudo tutto, dai. Fatela un buon proseguo di serata, è stato un piacere dialogare con te. E tante cose belle, buon proseguo, almeno ti saluta. Alle prossime, ciao. Ci sentiamo, sempre più belle, dopo di un'altra ciao.